Sono le 6, arrivano i primi muratori. Le mani straniere che ogni giorno costruiscono l'Italia del cemento, degli aeroporti, degli ospedali. Magari le stesse mani che hanno costruito il San Camillo di Roma, dove lavorano Delia e suo marito. Loro, appena svegli alle 7, trovano già sulla tavola la colazione e il caffè ancora fumante. Gliel'ha preparato Tila, 55enne srilanchese, che lavora per loro. Ogni giorno tutto solo per loro. In un loop sempre uguale, tranne il mercoledì pomeriggio però, quando per arrotondare va a servizio da un'anziana signora. E se Tila abitasse a Firenze, probabilmente farebbe la spesa al mercato di San Lorenzo, una babele di lingue improvvisate che già alle 8 di mattina riempiono le strade con bancarelle di ogni tipo. Su quelle alimentari si possono trovare le mele della Val di Non, i pomodori di Rosarno e i prodotti delle serre di Eboli. Dove lavora Lim, marocchino, interprete scappato dal suo paese e finito nelle campagne per 25 euro al giorno, quando gli va bene, offrendo il suo lavoro sotto il nome di un falso bracciante agricolo italiano, che un giorno prenderà una pensione senza aver messo mai piede in una campagna. Qui davvero non hanno capito che la legalità porta ricchezza, come invece succede a Vedelago, eccellenza italiana per il riciclaggio di tutto, anche della sabbia. Qui dall'incontro di un cervello straordinario e di robusta braccia di giovani del Burkina Faso, del Ghana, della Nigeria e di altre etnie è nato il Centro Riciclo Vedelago, che arriva al 95% di riciclaggio. Sono le 11, è il momento di una pausa, anche per Burem Salou, 1,90 m di muscoli e barba nera, uno dei tanti nigerini che hanno salvato le fabbriche di pelle del Nord-Est occupandosi della concia. Manali invece continua a lavorare, lei, 44 anni, viene dal Cairo e lavora a chiamata per la pulizia dei piani degli alberghi. Ora basta però, sono le 13 ed è ora del pranzo. Ma mentre per tutti non fa una piega se a lavare i piatti c'è Islam Safikel, c'è ancora qualcuno che fa il muso storto se la migliore carbonara la fa un tunisino, Nabil Hadi Hassan, che è stato il vincitore del premio del Gambero Rosso. Applauso a Nabil. Questa è Radio Plaza in diretta live da Stazione Utopia, oggi 11 dicembre 2016, 3 anni di Stazione Utopia, 3 anni di avventure, di battaglie, di radio, musica, eventi, teatro, spettacoli, socialità e amore infinito. E questo è Life is Sweet di Fabi Silvestri Gazzè. Radio Plaza! Prospettiva e le punture quando festa che ci tempesta. Non insetti che volano ma proiettili sopra la testa. È una puntura ma direi che un po' diversa. La cura c'è ma l'aria non è più la stessa. E continua. Non è soltanto una scelta ma è la mia sola rivolta possibile. Senza dimenticare che dopo pochi chilometri ci dovremo di nuovo fermare. Da qui passeranno tutti o non passerà nessuno. Con le scarpe nelle mani infilato uno ad uno. Da qui passeranno tutti fino a quando c'è qualcuno. Perché l'ultimo che passa vale come il primo. Bentornati, questa è Radio Plaza, seconda parte del scritto di Anna. Ore 14, il baretto davanti alla fabbrica comincia a riempirsi. Ci sono Diusan, Khaled, Ravi e decine di altri arrabbiati che lavorano per la grande tradizione italiana in campo navale. Per 10 euro, poi 8 e poi 6 e mezzo all'ora. Con ditte subappaltatrici, tanto che la loro azienda distratta non sa neanche cosa succede in casa sua. Ma forse è meglio fare una passeggiata tra i fori imperiali o a Piazza Santa Croce. Senza pensare troppo però da dove vengano i sanpietrini e quali mani li hanno lavorati. Ci sorprenderemmo tutti se sapessimo che la famosa pietra di Lucerna è lavorata dalle mani e dalle schiene dei lavoratori cinesi, che lavorano a cottimo per guadagnare di più e poi magari gestire una cava in proprio dal nome Zhang Cheng Zhu. Mentre i lavoratori cinesi caricano sulle loro schiene i blocchi di pietra, i ghanesi sono diventati campioni di sollevamento tacchini e passano le loro ore in un'atmosfera da film hitchcockiano. A 4 metri da terra, nei condotti sovraffollati di tacchini, cadono addosso ai lavoratori delle piume, delle secrezioni animali, scaglie della loro pelle e pezzi di mangime, insieme a migliaia di batteri. Tanto che gli addetti si spruzzano in continuazione la faccia e la tuta con un getto d'aria igienizzante. Finalmente le 17. Molti finiscono il lavoro e tornano a casa, passando per la stazione di benzina per fare rifornimento. Lì c'è lui, Mario, dello Sri Lanka, che rimarrà qui per tutta la notte a presidiare il self-service. Così potrà guadagnare 10-15 euro in più a notte sul suo stipendio e magari il giorno dopo darà una mano anche all'autolavaggio. Ore 18. Suonano le campane, è ora di andare alla messa della sera. Nel deserto delle vocazioni la voce che predica stasera ha un accento sudamericano, quella di ieri aveva l'accento polacco. Padre Luciano, rumeno, ha un buonissimo accento, ma mi scivola sull'articolo. A Terni 4 preti su 8 sono stranieri, che fatica per le anziane signore. E anche le campane del cambio turno suonano ed esce Anthony, ghanese, che lavora nei gironi danteschi delle fonderie, mentre comincia la notte di lavoro per gli stranieri del panificio di fronte. Da fuoco a fuoco, da forno a forno. Poco dopo comincia la notte di lavoro per gli operatori sociosanitari e ausiliari socioassistenziali delle case di riposo della quarta età. Anche qui presto si accenderà la TV per vedere il derby. Ma in campo gli stranieri ci piacciono. Non si è ancora sentito mai nessuno dire frasi tipo «a giocare a calcio a casa loro» oppure «il calcio agli italiani». eppure loro sì che guadagnano più di tutti gli altri messi insieme. Strana la gente. La partita non è ancora finita, ma già ci sono centinaia di camion con merci da scaricare e caricare su spalle indiane, marocchine ed egiziane di operai reclutati da caporali e pagati in nero 3-4 euro all'ora. Ed ormai è mezzanotte, si torna a casa e per le strade centinaia di donne straniere sui marciapiedi, lì a soddisfare le voglie italiane. Ma per questo ci vorrebbe un'altra puntata. E ora, dopo 24 ore tra i lavori che loro ci rubano, come direbbe qualcuno che non sa neanche di cosa sta parlando, cominciamo la puntata di Radio Plaza. Bene, la cominciamo collegandoci direttamente con la musica del Benin, dopo Life is Sweet di Fabi Silvestri Gazzè, che abbiamo ascoltato prima. Bellissima canzone sul viaggio e sull'Africa in genere, per chi è stato in Africa sa benissimo che quella canzone affonda le radici nell'ambiente e nell'aria africana. Andiamo in Benin con Pili Pili, questo è scelto sempre dal nostro tecnico audio anonimo. Pili Pili con Forbidden Drums, che è inglese, Forbidden Drums. Bisognava trovare un titolo pilipiloso. Pilipiloso. Bene, buon ascolto, questa è Radio Plaza. Thank you. poi sento e da cadere tutti come easy. Il nome in mano come suvarenza, va bene in mano come suvarenza. E c'è le cose che non è se, a bere che c'è sale fatto guanni. Anzi, e da ca, con le pastise, ni bere ma tocco tondo con. Alla che tu non giri, alla che tu non giri, alla che tu non giri. E se la crisi impazza, tu ascolta Radio Plaza. E allora buongiorno di nuovo a tutti, ben arrivati a questa nuova puntata di Radio Plaza, oggi di nuovo a Stazione Utopia dopo 3 anni. Volevamo presentarvi un attimo gli ospiti che sono qui con noi stamattina. Ospiti, tanti ospiti, internazionali direi. Meno male, perché la puntata di oggi è Radio Plaza senza confini, e ricordiamolo, poi nel corso della giornata lo ripeteremo ancora. In ogni senza caso, confini, che per chi parla inglese no borders. No borders. No borders, nessun'altra frontiera. Partiamo così da fianco a Carmine, così facciamo il giro. C'è Francesco per Nova Coenè, lo conosceremo più tardi. Ci sono gli ospiti del centro rifugiati di Saviano. E con loro avremo modo di parlare, scambieremo qualche domanda, ci daranno qualche informazione. I ragazzi del progetto Mare, i volontari del progetto Mare, anche loro ci racconteranno più tardi del progetto e delle loro esperienze. E poi Giuseppe Napolitano, operatore legale del progetto SPRAR di Cisciano, associazione AICS di Napoli. Che lavora nel centro rifugiati a Cisciano. Io direi di cominciare subito, ci piacerebbe fare qualche domanda e sentire le vostre voci, basta noi, parliamo troppo noi. Bene, faccio prima io una domanda, la tiriamo a caso. A caso. A caso, chi alza la mano per prima? L'ho alzata io. Allora vabbè, allora io faccio la domanda, ora chi alza la mano adesso risponde. Chi alza la mano? Dai. Mosu, benissimo. Mosu si è candidato. Liberamente. Allora bene, Mosu, prima domanda, da dove vieni? Sorry, I cannot speak in Italian. I want to speak in English, so that Inglese. Yes. Where are you from? I'm from Gambia. Allora, racconta il luogo da cui sei partito. Cioè, la discussione, diciamo così, noi vorremmo conoscere l'ambiente da cui voi siete partiti. Cioè, perché noi siamo abituati a vedere queste nostre città fatte in questo modo, non sappiamo bene e precisamente i posti da cui partono questi nostri amici. E quindi la prima domanda è proprio questa: racconta il luogo da cui si parte, descrivi il luogo da cui si parte. Ok, I'm from Gambia, place called Fladu, CRR, I'm from Bansang. Allora, viene dal Gambia, da un posto che si chiama Bang. CRR. Ne approfittiamo per ringraziare anche Roberto che ci aiuta nella traduzione. Bang. I'm from Bansang. Afro Bansang, viene dal Gambia, da Afro Bansang. Yes. Do you live in country? Or country like country like country place? I don't understand you. Do you live in a country or in a city, in a town? No, I live in village. Yes. I live in the village in Bansang. Quindi vive in campagna e prima non funziona. E prima raccontava appunto che con la famiglia si occupavano appunto di mucche, detto molto semplicemente. Di una fattoria. E invece Radek, tu da dove vieni? Com'è il posto da dove vieni tu? Io sono della Repubblica Ceca. Io vivo in una città regione con 100.000 di genti. Bene, allora, quindi raccontato il luogo da cui partiamo, aspettavo un po' di più, sinceramente. Allora, descriviamo la casa in cui vivevamo, cioè, in che tipo di casa, come era fatta, la stanza, su pellettili. Describe your room, your family. I don't know how to explain it. The people understand. Non saprei spiegare come far capire alle persone questo posto com'era. Yes. Prima mi diceva che comunque era un villaggio, yes, dove lui viveva con la sua famiglia, appunto occupandosi di mucche, di animali, e che era un villaggio 4 chilometri lontano dalla città più vicina, con pochissimi abitanti. E bene. Allora Akra, com'era la tua casa? Com'è? Da dove? No, chiedevo a lui. Ah, okay. La casa in Tunisia o qua? In Tunisia. Allora, in Tunisia abbastanza grande, 4 camere, allora, per 4 persone. È abbastanza grande per noi. È una periferia, non al centro del centro, come quartiere popolare, però è abbastanza tranquilla. Tunisia da dove? È di Tunisi, capita. Tunisi, proprio. Sì, proprio Tunisi. Vieni gli alberghi a Tunisi, c'è una canzone che cita la tua città in italiano, in Italia. Ah, non canzone so. Di Franco Battiato, se il nostro tecnico audio è bravo, la troviamo, te la facciamo sentire. Come si chiama? Bene. Casa grande, c'avevi una stanza tua? Sì, sì, ho una stanza, la mia sorella ho una stanza, un salone. Un salone, cucina. Due bagni e la stanza della mia mamma e mia papà, abbastanza grandi, 5-4. E invece, prima di una piccola pausa musicale, ci racconti com'era una tua giornata tipo, cosa facevi ogni giorno? Sveglio, faccio questo, vado di qua, vado di là, incontro quella persona. Yes, I was a farmer. Yes, I was a farmer following cow. Yes. Un contadino. Yes, following cow. Che alleva mucche, tante. Yes, every day. Ogni giorno questa era la mia attività. Yes, that is my work. Era il mio lavoro. Torniamo da te allora, Radek, scusami. Ci racconti anche tu una tua giornata tipo prima, cioè a casa tua? Cosa facevi ogni giorno? Prima ho partito in Repubblica Ceca, ho finito l'università, quindi ogni mattina vado all'università per studiare e dopo, durante pomeriggio e sera, ho lavorare. Io lavoro in cultura come fotografo e come editore in una pagina di web. Con eventi regionali. Va bene, facciamo una piccola pausa musicale prima di continuare con le nostre a conoscerci bene, con le nostre domande. Prepariamo anche gli altri a rispondere, più o meno è questo il ritmo che porteremo. Va bene, Jamili, tu sarai il prossimo. Radio Plaza, buon ascolto. Intanto dal Sudafrica, Miriam Makeba, Intoyam. Grande Miriam. Hintaya, hintaya, hintaya, hintaya, hintaya, bene dopo Miriam Makeba dal Sudafrica? Mazza che viaggio, adiù. Bene, facciamo la prossima domanda? Facciamo un altro gioco, cambiamo gioco. No, stavolta risponde Jamili. Possiamo passare il microfono a Jamili, ci arriva? Sì. Sembra un'interrogazione. Non è un'interrogazione, no, assolutamente, non è un'interrogazione, è solo per conoscerci meglio. Allora, Jamili mi diceva che viene... Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ok, fammi domanda. Da dove vieni? Sono dalla Liberia. La Liberia è grande? È molto grandissima. Bellissima. Io vivo in villaggio in Liberia. Villaggio? Non è per il centro, hai capito? Villaggio si chiama, mio città si chiama Foglia. Foglia? Foglia, sì. Hai capito? Io ho capito. Allora, il mio, questo mio risponde, hai capito? Ok, ci puoi descrivere anche com'era fatta la tua casa? Sì, importa. Ok, mia casa abbastanza. Mia famiglia non è molto grande, poco, abbastanza. Mio casa mia 5 camere, un bagno, anche un cucina. Hai capito? Ok. Facciamo così, invece di farti una domanda, Jamil, secondo te cosa dovrei sapere io di te? Cosa mi vorresti dire di te? Oggi? Sì, adesso. Oggi è molto felice. Stamattina quando sveglio dormire, oggi è molto felice perché questo programma mi piace. Vengo qua, sto per le persone, parlo con... signore, donne, ragazzi, mi piace, hai capito? Grazie per essere venuto qui grazie con per noi. Voi. Prego. E invece ritorniamo anche dai ragazzi del progetto Mare. Nana, giusto? Mi dici tu invece cosa dovrei sapere io di te? Cosa ti piacerebbe che io sapessi di te? Cosa vuoi dirmi di te? Che sono qua da aprile per lavorare con il Parco Marino di Punta Campanella con i miei compagni. Siamo quattro ragazzi di diversi posti e abitiamo tutti insieme in Massa Lubrense. È un progetto troppo bello. È un periodo bello per l'esperienza, per il posto, per tutto? In generale per l'esperienza, sì, perché lavoriamo nel mare, che mi piace tanto. E dopo abitare tutti insieme è un'esperienza bella, perché siamo diversi, molto diversi tra noi. Quindi è anche un'esperienza interessante. Bene, quella la diversità era proprio quello che stiamo cercando di far uscire un po' da questo incontro, no? Anche perché in Italia si parla molto di, e anche a sproposito a volte, di immigrazione, di migranti, di gente che viene dall'estero, stranieri, si confonde, si butta tutto in un calderone, si fa tutto un miscuglio, non si capisce mai bene precisamente poi quali sono le diversità, le differenze e la ricchezza che c'è dentro questa, questo fenomeno e l'opportunità che si può avere appunto di conoscere, di ampliare un po' anche la nostra mente, no? Stazione Utopia senza confini, Radio Plaza senza confini, tutto il mondo senza confini sarebbe, diciamo, un mondo migliore. Questa è un po' l'ipotesi, chiaramente. E come si va avanti in questa fase? Io ho un'altra domanda, volevo capire qual è il tipo di integrazione che siete riusciti a fare nel posto dove vivete adesso? Cioè, come siete riusciti a coinvolgere, ad integrare? Io sono di Spagna, quindi per me la cultura italiana non è neanche molto diversa. Penso che per me è stato abbastanza facile, nel senso che è similare. Per Akran... Sentiamo magari anche la loro esperienza. Allora, per me non ho trovato tanti problemi per integrare, solo un po' la lingua nei primi giorni, però quando ho iniziato a capire la lingua e parlare un po', ho trovato è quasi simile in Tunisia, perché già abbiamo tantissime gente che hanno vissuto qua, e anche tantissimi italiani che vivono in Tunisia, allora è quasi simile. Anche la lingua e tantissime parole le usiamo sono italiane, però ho pensato che sono francese. tipo per esempio diciamo fattura, diciamo valigia, diciamo tutto in tunisino. Ho pensato che della nostra lingua, non della lingua italiana. Allora non è così differente e non ho trovato tantissimi problemi per me. Sentiamo Radek adesso. Per me cultura italiana significa in questo posto napoletana o Peninsula Sorrentina è posto tra Salerno e Napoli, è più diversa della cultura di Repubblica Ceca, è differente abiti, con differente tempo per party, per lavoro. E il modo di integrarti nel posto, di integrare il progetto, il gruppo nel posto? Sì, cioè la gente del posto è stata presa da voi? A Massalubrense hai conosciuto gente, a parte loro, diciamo così, del progetto, hai conosciuto anche altre persone del paese? Sì, sì, sì. Hai avuto difficoltà oppure è stato semplice fare amicizia, per esempio? No, adesso dopo qualche mese è normalmente semplice per noi perché noi conosciamo ragazzi di Massalubrense, Santa Agata, Termini, tutti i paesi piccoli che sono parte di Massalubrense perché noi lavoriamo in grande parte che è Peninsula Sorrentina. So. Anche noi facciamo l'autostop molte volte, noi parliamo tutti i giorni con ragazzi stranieri. So. Adesso è facile. Va bene. Bene. Io volevo chiedere invece a Jamil. No, fammi domanda. Tu invece adesso dove sei, con chi abiti e com'è il posto dove sei? Com'è? Se c'è la stessa cosa, se le persone del paese vi conoscono, avete modo di parlare con loro? Allora, io abito a Saviano, in via Alverelungo, numero 9, capito? Ok. Allora, mio paese, io sono studente del mio paese, in arabo, capito? Io conosco i miei amici stanno a scuola. Molto anni io sono uscito dal mio paese, molti anni, hai capito? Adesso sono dimenticato gli altri amici, non posso avere parlo per tutti, hai capito? E a Saviano hai altri amici? Vivi solo nella casa che ti ospita? Saviano, giusto, sì. Ho avuto gli altri amici italiani, anche stiamo i miei amici africani, anche fuori a centro Saviano, sì, ho avuto gli altri amici italiani, sì. Anche in Italia, sì, vado a scuola con i miei amici per imparare bene la lingua italiana, hai capito? Benissimo. Okay. Sì, ci dicevamo prima con Jamil che la questione della lingua è fondamentale, è importantissimo imparare la lingua in un paese straniero. E portavo io il mio esempio, uno dei miei ultimi viaggi in Cina, io avrò parlato sì e no 3-4 minuti in un mese intero, visto che non parlavo cinese, non capivo neanche quello che mi dicevano, e quindi evidentemente la lingua è uno strumento fondamentale proprio per le amicizie o le relazioni che si possono costruire su un territorio che non si conosce, comunque in cui non ci si è mai avventurati, no? Chiaramente volevo chiarire un attimo questa differenza. Ci sono, oggi facciamo pure questa specie di parallelo da chi parte da casa quasi obbligato a partire, no? Obbligato a partire, e chi invece parte volontariamente, quindi dove non c'è una sorta di costrizione, nel viaggio. Questa differenza di dal punto di partenza poi rende l'esperienza del viaggio e del paese in cui si va a vivere diversa. Ecco perché poi facciamo le stesse domande a persone che stanno vivendo una esperienza che parte da un punto di vista e da un punto di partenza diverso. Intanto diamo anche il benvenuto a Yabasta di Cisciano, che è arrivata in ritardo, ma li perdoniamo. E passiamo... si vede che sono arrivati in ritardo dalla pettinatura di Alessio. È chiaro che viene dal cuscino, diciamo, viene dal cuscino. E così, per dargli un po' di tempo, passiamo ancora musica. Giamaica, Toots and Maytals, Take Me Home Country Roads. Giamaica, Radio Plaza. Yeah, listen. Most heaven, West Jamaica, sure is mountain, shining thunder river. All my friends there, pulling on those reeds, younger than the mountain, going like a bee. Questo era il suono della Giamaica, che per chi non lo sapesse è molto lontana da qua, ma parecchio direi, molto lontano. Un giorno o l'altro ci andremo. Pare che il clima sia molto umido in Giamaica, caldo e umido. Questo favorisce, diciamo così, la crescita di piante, diciamo, è un terreno fertile. Comunque, volevamo, prima di introdurre il prossimo ospite, che se la ride intanto... Sì, se la ride, volevamo salutare alcuni amici che sono arrivati qua nella piazza Stazione Utopia, amici che vengono dalla scuola di lingua messa su dall'associazione Nova Koiné, che oggi ci accompagna in questo viaggio intorno al mondo. Più tardi la conosceremo bene, questa associazione e le loro attività, così come anche le altre associazioni che oggi ci sono venute a trovare. Più tardi, questo significa che dovete, diciamo, aspettare. Il presidente sta solo a prendere il sole in questo momento. Molto bene. Intanto allora, però volevamo... Sì, facevamo quindi questo saluto alla scuola di lingua che svolge un ruolo fondamentale, che l'abbiamo detto prima, quanto sia importante riuscire a parlare e a comunicare. Ringraziamo bene. Anche Libera che è qui in piazza con noi stamattina, i suoi prodotti. Libera, già il nome è tutto un programma. Quella Libera là, è chiara. Questa Libera qui, sì. Bene, allora io volevo introdurre, perché oggi dovevamo avere ospiti, oltre agli amici del centro rifugiati di Saviano, abbiamo un degno rappresentante invece del centro che ospita altre persone rifugiate a Cisciano, è il nostro Giuseppe Napolitano, anche detto Peppe Cisciano, si dice esatto. Così dalle nostre parti per riconoscere San Martino, le persone. Attenzione. San Martino, ho sbagliato. Cisciano, per chi conosce Cisciano sa bene che San Martino non è Cisciano. Sono localismi. Siamo una repubblica autonoma. Provinciali. Allora, Peppe è uno dei responsabili e capace. Io direi di fargli una bella domanda difficile a Peppe, che è pronto. Fatemi una domanda difficile. Una difficilissima Peppe, domanda. Peppe, ci racconti che succede nel centro a Cisciano? Che succede? Allora, prima di tutto vorrei scusarmi per l'assenza dei ragazzi, però fortunatamente, tra virgolette, non ci sono, perché molti di loro hanno iniziato a lavorare, hanno trovato dei lavoretti sotto Natale nei mercatini, alcuni lavorano al mercato di Poggio Reale, fanno lavori umili, molto spesso a nero, però lavorano, quindi... lavorando in questo settore, come dicevo anche a te ieri, a Vincenzo, la conoscenza della lingua e il lavoro sono i due vettori principali di integrazione. Cosa si fa a Cisciano? Siamo un progetto SPRAR, servizio per i richiedenti asilo e rifugiati politici. Oltre ai servizi propri della prima accoglienza, cioè vitto, alloggio e assistenza legale, noi dovremmo fare un passo ulteriore, che è quello della integrazione. Infatti la nostra si chiama Accoglienza Integrata, è un progetto tra il municipio, il comune di Cisciano e la mia associazione AICS. E quindi noi facciamo orientamento sul territorio, insegniamo a compilare un curriculum, come ricercare lavoro, ovviamente gli indichiamo gli istituti che fanno scuola di italiano, come farsi un codice fiscale, come iscriversi all'ASL, come fruire il medico di base, come andare alle poste, come andare in banca, diciamo attività di integrazione e orientamento al territorio, in due parole è questo. E quanti ospiti ci sono adesso nella struttura e più o meno come passano le giornate le persone ospitate? Allora, diciamo, a Cisciano ci sono due case, Cisciano, due case con più o meno 16, adesso ultimamente abbiamo avuto un turnover, quindi siamo in 17. Il progetto però è un po' più ampio, perché ci sono anche delle strutture a Melito, dove lavorano altri operatori, c'è un altro team, però facciamo tutti capo alla stessa associazione. Come passano le giornate? Quando lavorano, lavorano per fortuna. Quando invece, per esempio, noi abbiamo delle ore settimanali necessarie di scuola di italiano, quindi 12 ore di scuola di italiano, 6 ore di orientamento legale, allora ad esempio gli spiego la loro situazione, come banalmente, come dicevo prima, farsi un codice fiscale, che cosa significa essere un richiedente asilo, avere la protezione sussidiaria, essere rifugiato politico, oppure non saprei, laboratori. Peppe, scusami se ti interrompo. Prego. Abbiamo specificato da dove vengono poi i ragazzi che abitano lì. I ragazzi hanno una provenienza varia, sono alcuni afghani, pakistani, poi ci sono altri della zona subsahariana, per lo più nigeriani, c'è un ragazzo gambiano. Queste sono le nazionalità. A Melito ci sono anche degli eritrei, dei ragazzi del Mali, più o meno questo. Tutti maschi? Tutti maschi, sì. È un progetto per uomini soli. E gli operatori? Tutti uomini soli? No, gli operatori no. Sono ci sono anche donne sole o accompagnate. Diciamo. No, perché questo è un aspetto interessante, no? Nei centri che abbiamo visitato noi abbiamo incontrato solo maschi. No, e... no. Io sono... C'è un collega maschio, cioè ti parlo di Cisciano, del mio team. C'è un collega maschio e poi ci sono tre colleghe donne. No, io ti parlavo degli ospiti. Ah, gli ospiti. No, il nostro progetto è soltanto per uomini. Inizialmente il progetto doveva essere per famiglie. Poi è in corso d'opera, è cambiato e adesso sono ragazzi, uomini, barra uomini... soli, cioè non con famiglie. C'è una ragione che porta poi a questo tipo di organizzazione? No, dipende dal progetto. O arrivano solo maschi? No, dipende dalla tipologia di progetto, perché ci sono dei progetti per donne, dei progetti per famiglie, altri per minori, altri per uomini. Cioè, questi ragazzi sono arrivati da soli e quindi questi progetti sono per loro, diciamo. Sono diversi i progetti per le famiglie, o quelli per le donne, o quelli per i minori. Anna. Volevo fare una domanda a Mosu per capire se nel centro di Saviano succede la stessa cosa, se fate le stesse attività. Yes, io studio italiano, lingua. Studiano italiano, sì, sì. In italiano, qui non ce ne sono. Alifa, allora ci racconti anche voi che cosa fate a Saviano ogni giorno? Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno. A Saviano noi siamo insieme al giornata, al lunedì noi andare a scuola di Nola. Allora, sì. Tornate da scuola? La scuola quanto dura? No, stasera a partire alle 5. Vai a scuola, tornare alle 7. Alle 5 alle 7, fino alle 5 mi sveglio la mattina. No, a mattina a casa, niente. Ah, stai a casa? Sì, sempre a casa. Vabbè, studi le cose prima di andare a scuola. Sì, è revisione. Ah, un po' si vede, benissimo, dai, parla, no, ci si capisce bene. Benissimo. Ecco, mi viene da chiamarti Peppe perché così mi hanno detto. Hai altro ancora da aggiungere sul centro, su insomma le prossime attività che farete? Cosa posso aggiungere sul centro? Questa è una delle motivazioni. La tua esperienza anche. Cioè. Io anche volevo fare una domanda un po' più pruriginosa, diciamo così. Prego. Se è possibile. No, perché parlando con loro... loro stanno da parecchio tempo fermi lì e non riescono ad avere i documenti, no? Quindi questo, diciamo, questo argomento della regolarizzazione, chiamiamola così, se si può dire così, è sempre un po' scivoloso, perché non si riesce bene a capire i motivi per cui queste persone poi vengono messe in queste strutture e rimangono lì per lungo tempo, per anni. Appunto, come diceva Alifa, non fare nulla. Per ma anni. Non perché debbano fare qualcosa, assolutamente. Uno può stare anche forse a oziare, dovrebbero. Magari. Forse magari. Dovrebbero. Il problema è che l'accoglienza in Italia non funziona. Questo è il problema principale. Cioè non si accoglie in Italia. Non si accoglie. La si nostra raccoglie. È un'accoglienza penosa. Si in raccoglie. Realtà. Se uno pensa che l'85% dei centri di prima accoglienza sono dei CAS, che significa... centri di accoglienza straordinari, che già il nome ci fa capire che dovrebbero essere delle soluzioni straordinarie, ma in realtà stanno quasi tutti là, come i ragazzi di Saviano. L'accoglienza straordinaria, lo dice il nome, è straordinaria, dovrebbe essere molto breve, temporanea, per un mese, qualche mese, il tempo di risoluzione della pratica. A norma di legge una richiesta d'asilo dovrebbe essere risolta in 6 mesi. In realtà se ne passano anni per una serie di disservizi, per una serie di inadeguatezze strutturali, istituzionali. Cioè non affrontiamo un fenomeno strutturale con risposte strutturali, ma restiamo incagliati in risposte emergenziali. Questo, diciamo, è il problema basico. Poi ovviamente uno va all'ufficio immigrazione della questura di Napoli e non c'è un mediatore culturale, c'è una carenza di personale, c'è magari il poliziotto che quella mattina sta nervoso, tutta una serie di disfunzioni che poi alla fine si riversano su di loro e su di noi. E le persone che fanno disinformazione, perché sull'immigrazione c'è molta disinformazione, hanno gioco facile, perché è vero che il sistema non funziona, che si passa da un lato dal populismo e disinformazione da un lato al buonismo e pietismo dall'altro. La verità dovrebbe stare nel mezzo, ma purtroppo non è così. Senti Peppe, al di là poi di chi, perché di cronache che raccontano di gente che specula su questa situazione, come al solito succede, diciamo, non è che ci meraviglia poi così tanto. Un'ossessione che ho io da un po' di tempo a questa parte è una domanda precisa che mi faccio nelle attività che facciamo noi e la chiedo anche a te, diciamo, nell'ambito in cui lavori, e magari la chiediamo, la facciamo voi girare questa domanda. La domanda è: che cosa manca? Bella domanda. Manca la volontà politica sia a livello nazionale che a livello europeo. Il problema fondamentalmente si procrastina. E ci sono una serie di situazioni a livello internazionale molto gravi. Non si parla dell'accordo che noi abbiamo fatto con la Turchia. La Turchia ha quasi 3 milioni di rifugiati, cioè 3 milioni di rifugiati, ha un'arma politica molto forte in mano al regime di Erdogan. E noi procrastiniamo il problema, non lo affrontiamo, perché si potrebbe fare, e si deve fare, non ci sono alternative. Aspetta un attimo Peppe, si potrebbe fare, diciamo, una cosa, cioè un elemento che al momento manca, appunto, e che però potrebbe magari semplificare un po' questo processo, perché appunto nella confusione sappiamo bene che nella confusione c'è chi sa mettere le mani in pasta. Io penso che lo Stato dovrebbe avocare, cioè dovrebbe gestire direttamente, non lo fa, delega alle associazioni. Questo meccanismo di delega ovviamente è come esternalizzare un servizio pubblico, uno, e dovrebbe innescare dei sistemi effettivi di integrazione attraverso il lavoro, cioè c'è la possibilità a mio avviso, ci sono delle zone del paese che sono spopolate. Un modello che si evoca molto spesso, a volte a sproposito, è quello di Riace, no? A Riace c'era questo paesino di fatto spopolato, perché tutti gli abitanti di Riace erano emigrati. Il sindaco, però vedi, ci si basa sempre sulla volontà dei singoli. Non c'è, il sindaco è stato lungimirante e ha visto nell'immigrazione, nell'integrazione un mezzo di sviluppo. Ed è questo che manca, secondo me, vedere questa come una possibilità, cioè come un'occasione che noi abbiamo di crescita, ed è una vera potenzialità che non viene sfruttata. Una provocazione, Peppe, perché qualcuno ha parlato pure quando si introduce il discorso sul lavoro, no? Sul fatto facciamoli lavorare, no? Troviamogli un lavoro, che facciano qualcosa. Molti insinuano che si insinua il pensiero che poi diventa come una sorta di sfruttamento, no? Una sorta di manodopera a basso costo. Guarda, io penso che allora, nella loro richiesta di asilo dovrebbero essere immessi degli elementi valutativi. Certamente non li puoi costringere a lavorare, però se tu ti impegni più degli altri dovresti essere premiato più degli altri, cioè se tu dimostri la volontà effettiva di integrarti in un territorio, allo stato attuale questa cosa conta poco o niente. Non dico che devono essere messi a lavorare, però effettivamente, come i ragazzi la mattina si svegliano non hanno niente da fare, se per esempio tu gli proponi qualcosa, chi lo fa? Se avesse un tornaconto nella propria domanda d'asilo lo farebbe. E si innesca lì qualcosa dovrebbero restituire. Certo, non li puoi costringere a lavorare perché sarebbe inumano, però tu dici, se tu lavori, se ti impegni più degli altri io poi ti premio. Non ci sono questi meccanismi premiali e non ci sono meccanismi di integrazione strutturati. abbiamo ascoltato il pensiero di Peppe. Io volevo chiedere anche a voi, a tutti voi, chiunque voglia rispondere, secondo voi che cosa manca al vostro arrivo in Italia? Che cosa non c'è di buono in questa accoglienza? O non c'è di buono rispetto a quello che voi vi aspettavate, no? Che potesse succedere quando poi siete arrivati? Sì. Ripeto la domanda, sì. È importante. Sì. Allora, Peppe ci ha detto che cosa manca secondo lui, che cosa dobbiamo fare meglio secondo lui. Secondo voi, che cosa manca quando voi arrivate? Che cosa dovrebbe esserci, dovreste avere? Non riesco a dirla più facile, vediamo se... Ok, ho capito. Allora, hai capito? Mio problema con noi quando arriviamo in Italia, tutte le persone piacciono il tuo paese. Quando tu esci dal tuo paese, tutti non è per l'italiano molto bella o l'italiano molto bravo, o non è così. Il problema, tutti io ho avuto il mio problema. Quando non ho avuto problema, non ho uscito mia famiglia, padre, madre, sorelle, tutti stanno nel paese, tu usci dal tuo paese, quando tu non c'è il problema, no. Ok, adesso quando arrivare, il mio problema, loro chiedono con me, che cosa è il tuo problema, che cosa tu arrivi in Italia? Ho detto tutti i miei problemi con loro. Ancora prima volta non danno con me i documenti. Loro dicono Jamil, ragazzi, tranquillo, dopo. Ho detto, non è un problema. Anche io mi continuavo tranquillo, io mi aspettando ancora. Ho detto il mio problema, loro non danno i miei documenti. Io non ho fatto niente, non ho fatto problema. Loro chiedono Jamil, ragazzi, che cosa avete problema con arrivate in Italia? Ho risposto, tutti questo è il mio problema, basta. Quando non ho problema, non arrivo in Italia. Hai capito. Abbiamo capito. No, abbiamo, grazie anche a Francesco, diciamo, che si è prestato a fare da mediatore culturale fra Jamil, che è un amico, no? C'è un sorriso, diciamo così, africano. Bello. La parola chiave di tutto questo ragionamento, secondo Francesco Evangelista, nato, è la comprensione. Cioè, Jamili ci ha raccontato che quello che manca nella sua situazione è appunto, noi la chiamiamo accoglienza, qualcuno la chiama integrazione, ma è la comprensione dei problemi, giusto? Lui diceva infatti, se io non avessi avuto nessun problema non avrei dovuto lasciare la mia casa, i miei genitori, la mia famiglia. Quindi se io ho lasciato la casa è perché ho avuto un problema. E all'arrivo qua quello che è mancato è l'accoglienza di questo problema. Giusto Jamil? Giusto. Volete dirci anche voi, secondo voi? Sì. Noi siamo qui, Italia. Tutto a posto. Quanto noi venuto qua, adesso noi siamo contento. Sì, perché non lo so, per l'altro ragazzo o l'altro persone problema, però la mia problema, perché io uscire alla mia paese per venire qui. Sì, veramente, quanto una persona va fuori, lasciare la sua famiglia, la tua padre, tua madre, capisci? Questa ce l'hai un problema. Sino la famiglia è molto importante. Sì, è vero. Perché capisci quanto noi siamo venuti qua, adesso noi siamo tutto a posto. Non ne manca niente. Allora, Italia, quando arrivo in Italia, mi piace Italia perché Guarda, il mio problema quando mio, loro cambiano mio vita, my life, perché quando arrivo in Italia loro cambiano tutto. Adesso io non penso troppo perché loro sono bravi, loro aiutano con noi, documenti, ancora continuano per aiutano con documenti, per qualcosa che vuoi, Jamil, che vuoi, questo non va bene, questo va bene, capito? Anche vado a scuola per imparare, perché la lingua è importante. Quando tu stai persone, forse per parlare bene la lingua con loro. Quando arrivo in Italia, ragazzi, loro dicono devi andare a scuola. Ho detto non è problema, perché scuola è importante, tutte le lingue sono importanti. Italia, inglese, francese, tutte importanti. Adesso noi stiamo in Italia, forse parliamo bene italiano, non lo so. Questo Italia, loro sono bravissimi, mi piace, perché ragazzi, donne, signore, tutti loro aiutano con noi, tutti, quando saluta persone risponde, quando persone visto con te, tu cammini per strada, cammino strada, ciao, come state? Stai bene? Ho detto sì, mi rispondo, io sto bene, sto studiando la lingua italiana, hai capito? Questo è il mio rispondo per dico con gli italiani. Ciao. Bene, prima di passare la parola alla prossima domanda o a chi vuole intervenire, dopo facciamo una pausa musicale. Facciamo una pausa musicale con... E quindi adesso ascoltiamo una canzone dalla Spagna di Paco Ibáñez, La mala reputación. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Radio Plaza, eccoci qua. Salutiamo intanto Giuseppe Napolitano che va via e lo ringraziamo per aver partecipato. Peppe e dei Santumartino, per evitare conflitti interni. Intanto però Alessio di Scisciano, giusto? Io posso essere proprio sì, Scisciano seriamente. E anche Alessio di Iabasta, poi dicevamo li conosceremo meglio come associazione con le loro attività, però voleva fare una domanda. Io volevo chiedere ai ragazzi, Ma voi di Saviano quante persone conoscete? How many Saviano people do you know? You know other Saviano people, how much? Ripeto. Sorry. Go ahead. I repeat. How many people do you know that lives in Saviano? Local people, local from Saviano. I understand. Saviano city. Yes, I understand. Me, I don't know people of Saviano, but I know people of Siciliano, Nola, because I was in team of Nola sport team running. Yes. Allora, non conosco esattamente gente di Saviano, però di Nola, di Cisciano, sì, giocavo anche a calcio a Nola. Sì. Giocavo a calcio a Nola? Cioè sport, running. Running? Yes, okay. 10 km. Corsa. I go many, many places. I go, how to call it? Many city in Napoli. Mm. Yes. Tante città di Napoli. Sì. Allora, Saviano, io conosco tante persone a Saviano, perché adesso io abito a Saviano, io sto in Saviano un anno e 5 mesi adesso. Posso, conosco tante persone, posso, possibile, perché un anno non è 2 mesi, non è 3 mesi, posso conosco tante persone. Sì, io conosco. Perché quando arrivo in Italia io vado a correre stamattina e anche pomeriggio, anche sera, non è possibile, perché io corriamo con gli altri ragazzi, anche gli altri persone italiani, vado a correre, anche girare, passeggiare tutti, hai capito? Okay. Anche persone, quando anche ragazzi, io vado a scuola per gli altri ragazzi italiani. E tu vorresti rimanere a vivere a Saviano? Allora non posso rispondere a questa parola, perché adesso non ho documenti. Non posso rispondere a questa parola. Okay. E quando ho documenti io penso, sto a pensare, posso rimanere in Saviano o no? Quando Bene. C'è le documenti. Questo era, infatti, questa è una delle cose che volevamo chiedere. Hai ancora altre domande, Alessio? Ah, ok. Sì. Bene, mentre ci organizziamo con i microfoni, ricordo a tutti quelli che sono collegati con noi in questo momento, che tutti quelli che sono sintonizzati su Radio Plaza in questo momento, che stiamo festeggiando il terzo anno di Stazione Utopia. Dalla presa di Stazione Utopia e la rinascita di Stazione Utopia, oggi Stazione Utopia è senza confini e l'iniziativa ha come obiettivo la conoscenza un po' delle persone che si ritrovano qui in Italia, persi in un mare di scartoffie e spesso senza identità. Li vogliamo conoscere così, solo per amicizie, per poter giudicare e vedere meglio quello che poi succede a livello politico e istituzionale qui in Italia e non solo in Italia, visto che il problema, tra virgolette, chiamiamolo problema, non è solo e solamente italiano o savianese, ma è una questione globale, direi. Mosu, dicevi? La risposta alla domanda di Alessio se vuoi vivere a Saviano. Yes, really, I want it. If God designed to I live in Saviano forever, you know, human being in this life, anything you depend it with God. Quindi se Dio vuole, per me va bene vivere a Saviano, mi piace, sto bene qua. Sei uno dei pochi. Io invece volevo chiedere a Jamil, mi hai fatto pensare ad una cosa, tu hai detto senza i documenti io non so rispondere, giusto? Quindi senza il documento non riesci a fare un progetto, è così? Infatti la domanda è questa, quali sono i, se ci sono i vostri progetti futuri? Questa è una domanda che apriamo a tutti chiaramente e chiunque vuole rispondere. I progetti futuri, le ambizioni magari, un sogno, un desiderio, una meta da raggiungere. Io rispondo qua a tue meta. Parole, perché è possibile quando noi adesso non facciamo niente a casa, solo andiamo a scuola per imparare. Non posso sapere, posso rimanere in Saviano o no, perché adesso non ho documenti, non lavoro, solo vado a scuola. So, adesso quando rispondo io voglio rimanere in Saviano, non è vero, perché non lo so avanti, hai capito? Allora facciamo un passo indietro, Jamil, visto che ti vediamo voglioso di fantasticare. Guarda, facciamo un passo indietro a quando sei partito dalla Liberia. Cioè quando sei partito dalla Liberia, qual era your project? Possibile scappare quando... dalla Liberia. No, non è così. Partire ho stato quando uscì dai miei paesi. Conakry, Senegal, Mauritania, hai capito? Così. Adesso non posso per ricordo tutto, perché sono dimenticato, molto difficile. Non posso per... Io parlo il mio problema tutti per fatto strada, hai capito? Alifa, e tu hai un progetto? Anche tu hai pensato a cosa potrai fare, cosa vorresti fare, cosa vuoi fare? Dove qua o quanto io sono in Africa o... Ora. Ora io voglio cambiare la mia vita. Come hai pensato a come puoi cambiarla? Voglio cambiare lavoro, capito? E trovare molto soldi, capito? E cambiare la mia vita. E invece i ragazzi del progetto Mare, che progetti avete voi? Allora, per me adesso non ho niente, però non so, forse cerco un altro progetto tipo progetto Mare, forse cerco un magistrale qua o in Tunisia, perché ho fatto laurea, allora sono libero. Non ho tipo progetto preciso adesso. Io torno a Spagna adesso in 2 settimane e io voglio provare a lavorare in qualcosa di conservazione marina, che è lo che mi piace. Vuoi tradurre? Non ho capito. Che Mimì ogni tanto lo vedo che si abbarbica su Radek. Dopo il mio ritorno in generale. Chi traduce dal ceco adesso, giusto Mimì? Dopo il ritorno in gennaio, io sono in Repubblica Ceca solo 1 mese e dopo io vado a studiare politica e scienza in Slovenia e dopo viaggiare solo con mia banda e con musica. Radek, ricordiamo appunto, è un musicista e se qualcuno è interessato ad ascoltare la sua musica, meglio che si intrattenga qui anche per il pranzo, perché dopo pranzo ci sarà una pausa e poi c'è il, diciamo, l'intervento musicale di Radek con un collaboratore che poi conosceremo più avanti. Bene, a che punto siamo? Alessio ha una proposta da farci. Proposte? Io vi porto una proposta. Quindi un fuori programma. Sì. Fuori programma, perché le proposte non ne avevamo messo in conto. Vai. Allora, praticamente, prima si parlava di cosa non funzionava del sistema di accoglienza. Noi assieme all'associazione Melagrana abbiamo fatto un ragionamento su quali punti cambiare del sistema d'accoglienza e abbiamo sviluppato una proposta in 8 punti che stiamo presentando al Ministero del... a parte l'abbiamo mandata alla Presidenza della Repubblica e alla Presidenza del Consiglio, però è una proposta sulla quale vorremmo costruire una campagna di diciamo, di sensibilizzazione che possa sfociare in una raccolta firme. Ora, diciamo, la proposta ve la sintetizzo in tre punti, perché tutti e otto è un poco lunghi. Praticamente noi partiamo dall'idea che diceva Peppe dell'accoglienza in piccoli numeri distribuita in modo omogeneo su tutto il territorio. Però, diciamo, la nostra proposta è un po' diversa, nel senso che noi diciamo il gettone di presenza giornaliero, che è quello lì che serve, la cosiddetta diaria, a fare un, diciamo, a mantenere poi le strutture ospitanti, di trasformarlo in una forma di sostegno al reddito come retribuzione a un tot di ore lavorative. Nel senso che noi ci siamo accorti che, per esempio, nella comunità melagrana noi abbiamo una serie di persone, Uli, Amayun, che sono totalmente integrati col territorio. Uli fa il cuoco nel ristorante di Dugenta, Amayun è fattore e cura il servizio degli asini che portano persone con disabilità a Dugenta. Questa cosa è stata possibile perché hanno iniziato a lavorare da subito, però a lavorare con una retribuzione, che poi quella è la cosa fondamentale che crea l'attaccamento. E la proposta nostra è questa: un affidamento ai comuni, quindi nella figura del sindaco che diventa il tutore dei piccoli numeri, come è da noi con Amayun, li sono affidati al sindaco. Noi gli abbiamo chiesto al sindaco di fare da tutore, al sindaco di Dugenta, e lui l'ha fatto, e lei l'ha fatto, che è una donna. E quindi il comune che provvede a trovare un alloggio, e la diaria che diventa stipendio mensile per un tot di ore lavorative, che uno stipendio che permette anche di mantenere in piccola parte le spese della casa, insomma. E in questo modo noi siamo partiti da una cosa semplice: se vedo uno che fa un giardiniere, se vedo uno che pulisce le strade a Dugenta un giorno, a un primo giorno magari lo vedo come un extraterrestre, o secondo giorno dico sono andato a votare là, o terzo giorno saluto Camana. Riusciamo a parlare italiano, almeno anche i nostri amici capiscono. Scusate, avete ragione, traduzione dimmi. No, cioè l'idea è quella lì, che se io vedo una persona lavorare a Scisciano, a Dugenta, in questo caso nostro è Dugenta, il primo giorno lo vedo come un extraterrestre, il secondo giorno magari lo saluto. Cioè, se non c'è un lavoro, che però è lavoro, non deve essere volontariato, cioè deve essere un lavoro, non, secondo noi non si risolve questa cosa. E diciamo lo strumento c'è già, perché alla fine la diaria, se voi ci pensate, è una sorta di conteggio, è un conteggio fatto sul tempo della giornata. Quelli sono 30 euro al giorno, 30 euro al giorno, per 30 giorni fanno uno stipendio piccolino, insomma. E però mettere due paletti, noi ne abbiamo stabiliti due: uno la scuola, a due entro 6 mesi, e licenza media entro 2 anni. Cioè, e altrimenti, proprio come facciamo noi con i ragazzi della comunità, altrimenti te ne vai. Cioè, nel senso, non te ne vai nel senso che te ne vai, però non puoi accedere poi alla residenza. Cioè, nel senso, l'unica cosa, fissare la cultura, come una volta si faceva in Italia, la scuola dell'obbligo, come unica determinante. Questa è la proposta, diciamo, che poi vi manderò scritto. Bene, non per interrompere Alessio, chiaramente, che si intrattiene con noi, quindi, perché gli aspetti, diciamo così, un po' più... Sarebbe interessante tradurla e vedere se loro sono d'accordo. No, in realtà io quello che hai detto tu l'ho ritrovato nelle parole di Alifa. Alifa lo diceva. Io sentendo quello che diceva lui. Giustamente, diceva, se io posso lavorare e guadagnare dei soldi, io cambio la mia condizione e sto meglio, e magari resto anche qua, non è che ho bisogno di andarmene altrove. Ed è una riflessione interessante. Chiaramente nel merito delle proposte o delle questioni un po' più burocratiche riusciamo... Se vi intrattenete, magari ne parliamo poi nella seconda parte di Radio Plaza, che non dimenticare mai, radio della piazza, in piazza, per la piazza e solamente pazza. È una radio, sempre microfono, e quindi un po' di musica. Un po' di musica con un brano di Jovanotti, un po' datato, Il Muratore. Sì, senza andare di fretta, perché preparatevi tutti, perché stiamo per iniziare un giochino, diciamo così, per alzare un po' il divertimento, che detto da noi è sempre un parolone grosso. Jovanotti, Il Muratore, questa è Radio Plaza. La gente si muove, la musica cresce, ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce, ancora un altro muro viene giù. paura, ma il pensiero non lo puoi murare, perché il pensiero vola e c'è lo scuro, e sta di qua e di là dal muro, e sta di qua e di là dal muro, e sta di qua e di là dal muro, e sta di qua e di là dal muro. La gente si muove, la musica cresce, e ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce, e ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce, e ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce, e ancora un altro muro viene giù. Oh! Torniamo, adesso facciamo un gioco, eh? We are making a joke, ok? Ci sono delle parole, il mio balletto è andato via, non lo trovo più, lo faccio io. Allora, abbiamo delle parole, italiano e inglese. Prendiamo una parola e the first thing you can think about it, just say it, ok? Diciamo la prima cosa che ci viene in mente con questa parola e facciamo un giro. Chi vuole? If you want, ok. If you don't want, it's ok. Ok? Va bene, partiamo. Allora, scegli tu? Francesco, scegliete voi? Faccio girare, eh? Ognuna di voi ne sceglie una. Aiutatemi a farle girare. Siamo pronti, facciamo a cerchio così, come partiamo, ok? Francesco, vai, qual è la parola che hai scelto? Posso giocare anch'io? Vai, Francesco. Una parola, la parola è number, numero. Devo dire quello che penso. La prima cosa che mi viene è che, insomma, siamo sempre pochi quelli che cercano di cambiare il mondo. E poi andiamo avanti. Which is your word? What do you think about this word? Yes, and if questo, you think about piedi? Sì, questo about? È piedi. Yeah? Sì, come no come si come What do you think when you say feet? Piedi. The word feet. This is piedi. Piedi è questo che cammina quando tu vuoi come tu solamente vai quando tu vuole vai come l'altro piedi ma no okay, allora prendiamoci un altro po' di tempo e poi capiamo. Jamil, tu qual è la parola che hai trovato? Allora orologio, questa parola orologio. La parola è orologio. Visto? Orologio. Avete visto? Clock. Questa parola significa io non lo so, perché non posso avere risposta. Quando, quando conosco orologio, non conosco, sono dimenticato. Ok. Questo ora per orologio, devi mettere come per capire ora, a che ora siamo, a che ora, ok. E la parola orologio, orologio, che cosa ti fa pensare? Questo orologio Posso pensare... No, non posso pensare. Non lo sai. Va bene, va benissimo, va bene così. Senza tranquillo. Documento non si pensa, abbiamo detto, giusto? Poi... Buongiorno. Buongiorno, ciao. Ero. Lui non può pure parlare bene italiano, lui deve parlare francese. Proviamo con il francese, sì, Alessio. Francese. Anche lui, giusto. Chi è che traduce dal francese? Okay. Glielo dici in francese, che cosa ti viene in mente da quella parola? Ero. Tomola. Qu'est-ce que tu penses quand tu vois le mot bon... Quel est ta mot? Ero. Ero. Hero. Un héros. C'est la guerre de l'ancien de la guerre de passé. La guerre, si. De notre grand-parent qui ont déjà décédé. Ah. Alors, une personne qui a fait la guerre qui est l'anno uscesso. Si. Et l'anno uscesso, si. C'est ça. Merci. Grazie a te, grazie. Tu che parola hai? Bianco. Bianco. Sì. E che cosa pensi? Bianco, bianco. Un colore. Colore? Bianco. Io penso bianco fa mi pensa è un come dice il lumiare, capito? Il colore bianco è molto bene. Capito? Sì. Va bene. Mi piace il colore bianco. Bianco fa pensare il drappo del musulmano. Ah, sì. Bene. Mm. Bene. Grazie. E poi? Mi trovo nero. Nero? Sì, black. What do you think when you see this word? When you see black, this word, what do you think about? What I think about? I see now here white. Me half black. So I don't know how to replay it. No, it's English. Mimi, e tu che cosa pensi alla parola nero? Nero. Al momento Mosu ci sta pensando. Intanto Mimi, tu a che cosa ti viene in mente con la parola nero? Dunque, mi viene in mente tutti i colori insieme. Che anche se più magari sul marrone, però quando cominciano ad essere più scuri diventa tutto nero, potrebbe essere una bella... Perché il marrone se lo fai riposare diventa nero. Esatto. E io lo sapevo che si finiva così. Radek, qual è la parola che hai trovato? Io ho internet. Internet è per me comunicazione con il mondo, con tutti i genti. Diffusione di informazione liberi, totalmente liberi. Grazie. E poi c'è la parola di Akram. Allora, la mia parola è sedia. Allora, mi fa pensare due cose, una cosa positiva e una cosa negativa. Sedia per rilassare, però anche le sedie per la politica. Oh. Ok, ho capito. Allora. Quelle le chiamano poltrone. Quelle le chiamano, perché loro sono sedie più comode. Sono sedie calde, molto sì, calde, di velluto. Lì e non si alzano. Benissimo. Okay. E poi Nuna. Io la parola mani, che mi fai pensare in toccare, salutare. Ah, il saluto. Benissimo. E poi tu non l'hai presa, Alessio, la parola. Alessio. Mimì, caccia una parola per Alessio, dai. Tamburo. Olè. Scusa. Il tamburo mi fa pensare alla serata a Nova Guinea l'altra sera in cui si sono incontrati tutti i tamburi, tamburo del sud Italia, tamburo africano, il battito del tamburo come il battito del cuore, non lo so, questo mi fa pensare, uguale per tutti. Un'altra, rispondo io. Ombrello. Ombrello. Mi fa pensare che può piovere, però si trova sempre un riparo nelle piccole cose. Cioè, c'è sempre qualcosa di bello che compensa qualcosa di brutto, no? Grazie. E poi Carmine anche vuole partecipare al gioco? Vai. Chiave. Bene, allora io quando penso alla chiave penso che si possono aprire porte e portoni, portelle, apertura totale. Eccola lì, bisogna trovare, mi fermo un attimo per far passare il centro mobile di rianimazione. Tutti la chiamano ambulance, centro mobile di rianimazione, ragazzi. Effettivamente quando poi passa... Tutti si rianimano, no? Escono fuori dai balconi, quindi ecco perché è mobile, perché si sposta e quindi... Vabbè, chiave quindi è trovare il modo per chiudere la storia dei confini. Basta con i confini che rendono le persone straniere, che rendono le persone immigrate, che rendono le persone extra qualcosa, quindi... Abbattiamo finalmente e per sempre queste frontiere, apriamoci tutti, nessuno è straniero, tutti figli del mondo, nostra patria e il mondo intero. Di extra c'è solo lo straordinario che va oltre l'ordinario. L'ordinario non ci piace, non ci affascina. E in questo momento a me viene in mente la musica invece, una canzone italo-francese di Sandro Joyet, Sagolò. Ricordiamo che Sandro Joyet l'abbiamo avuto ospite al concerto del 1° maggio e Collettivo Utopia ci sta lavorando alla seconda edizione del 1° maggio a Marigliano. Abesa ne tode sala, mangio madro de sala yane. Ne besa tode sala, mangio madro de sala yane. Ne besa tode sala, mangio madro de sala yane. Mini angolo, sagolo, dangalangolo, yani. Sagolo, mini angolo, sagolo, dangalangolo, yani. Ma besa ne togo de sala, ma di jomma togo de sala, yani. Besane to de sala, mani dum to de sala yane. Sagolo mini angolo, sagolo dangalangolo yane. Sagolo mini angolo, sagolo dangalangolo yane. Minia, vanagala, minia, vanagala, minia, suba, dangalangolo yani, toko te sala. Sagolo mini angolo, sagolo dangalangolo yani, sagolo mini angolo, sagolo dangalangolo yani, sagolo mini angolo, sagolo dangalangolo yani, sagolo mini angolo, sagolo dangalangolo yani. Bene, rientriamo in diretta. grazie al nostro tecnico di averci avvisato che finiva il pezzo, così io sono stato prontissimo. È proprio quello, cioè, la forza di una squadra è proprio quella di, no, ritrovarsi quando manca uno, si rientra con quell'altro. Bene, passo la parola a Francesco, che voleva un attimo sintetizzare, no, perché ha parlato poco Francesco. Ed è uno che non parla poco normalmente. Ma oggi pomeriggio avrà modo di parlare tanto, tanto, tanto, perché volevo solo ricordare, poi Francesco io sto zitta, che oggi pomeriggio la radio continua e soprattutto l'attenzione sarà rivolta alle associazioni che lavorano sul territorio, anche allargato, visto che arriveremo fino a Massalubrense. Molto bene. Allora passiamo la parola a Francesco, che voleva un attimo intervenire proprio per non rimanere in silenzio per tutta la puntata. Bene. Tolgo il baffo dal microfono e passo. Allora, cambiamo microfono. Così parliamo insieme. Vai, ok. Vabbè, innanzitutto c'è 100.000 giorni come questo, cioè in cui si parla di immigrazione, in cui soprattutto siamo zitti noi e facciamo parlare loro. Cioè, quindi io sono ben felice di essere stato zitto fino adesso e aver ascoltato loro, le loro problematiche e le loro critiche nei nostri confronti. Quello che secondo me è uscito fuori da questo incontro, e magari poi avremo, saranno punti di, cioè spunti per le riflessioni che faremo oggi, è che comunque ogni differente persona che viene da qualsiasi parte del mondo ha il problema principale, che è quello della lingua, no? Ed è il problema principale, che diceva anche Alessio, sul quale bisognerebbe innanzitutto lavorare, e nel quale noi come associazione ci siamo inseriti e abbiamo cominciato a lavorare su questo. Quello che è uscito fuori, che io mi sono segnato come parole chiave, è stata una sorta di malcontento per l'incomprensione che si ha rispetto alle problematiche di ogni singola persona, perché qua si tende sempre a generalizzare, no? Si generalizza, o sei un rifugiato quindi devi scappare dalla guerra, o sei un richiedente asilo quindi hai delle idee politiche che non sono condivise nel tuo stato, oppure sei un emigrato climatico, un emigrato lavorativo, e quindi devi avere meno diritti rispetto a chi invece scappa perché è una guerra, no? Diciamo, come diceva, diceva una canzone, il dolore degli altri è un dolore a metà. Sì, esatto, però non so quale canzone è. Non ti ci interessa, l'importante è il concetto. In realtà non se lo ricorda neanche lui. No, io la conosco benissimo la canzone, me la ricordo, e credo che sia vera questa cosa, il problema di immedesimarsi nella difficoltà dell'altro è una delle cose più difficili che noi verifichiamo nel rapporto tra, appunto, chi nasce, cresce, pascia e vive in un luogo, e chi invece poi, diciamo, arriva da lontano con tutta una serie di, con una storia sconosciuta per la gran parte. È una delle principali barriere che noi ci costruiamo, perché poi alla fine è semplicissimo, basta stare zitti e ascoltare, far parlare, ok? E dare gli strumenti a queste persone per poter raccontare il proprio vissuto, ok? Quindi la prima parola chiave era incomprensione, comprensione, incomprensione. Quello che ho notato anche che ci sono differenti esperienze, no? C'è l'immigrato europeo, c'è la persona che viene dalla Repubblica Ceca, ma anche dalla Tunisia. Cioè, queste persone hanno magari più sogni, invece le persone che vengono, perché sono libere, no? Perché vivono da cittadini liberi, mentre le persone che vengono in qualche modo affidate a questi centri subiscono una sorta di sospensione della loro identità. Addirittura queste persone hanno dimenticato perché sono partite, non sanno più dire perché sono venuto qua, ok? Perché nel frattempo, se tu mi chiudi per un anno, due anni in un centro dove non mi dai la possibilità neanche di imparare per bene la lingua, no? Perché loro stanno qua da un anno e mezzo e non hanno avuto la possibilità di imparare per bene la lingua. In un anno e mezzo si impara una lingua, se la pratichi tutti i giorni. Quindi, cioè, loro vengono sospesi, non sanno più perché sono partiti, non sanno cosa vogliono fare dopo, sono imprigionati in zone di periferiche, senza la possibilità di farli comunicare con gli altri, senza la possibilità di creare. Però questo è una conseguenza. Quello sul quale secondo me dobbiamo lavorare è, piuttosto che fare proposte al governo, eccetera, dovremmo lavorare su la sensibilizzazione delle persone, perché se le persone che vengono qua trovano una comunità accogliente, che era il tema dell'anno scorso dell'agenda, cioè, se trovano la comunità accogliente, è chiaro che hanno più facilità sia di interagire, di imparare l'italiano, di trovare un lavoro, di esprimere la loro identità, di non perderla. E questa è la cosa, diciamo, sulla quale oggi pomeriggio spero riusciremo anche a parlare. Volevo precisare che l'agenda di cui parlava Francesco è un'agenda che produce l'associazione Yabust in collaborazione con varie altre realtà che affronta ogni anno una tematica. Ecco, volevo fare questa precisazione perché a volte, sai, si dicono le cose senza i presupposti. Poi oggi pomeriggio ci racconterete bene il progetto e quest'anno la parola, mi dicevano, è resistenza. Poi resistenza. Anche Nova Conea ha partecipato all'agenda quest'anno e quindi avremo modo di parlarne tanto. Intanto ancora musica, questa volta dall'Etiopia, un titolo impronunciabile. Ci provo mentre Vincenzo la fa partire. Salutiamo Yabasa, li rincontriamo oggi pomeriggio, grazie. E intanto Enenegnwey Antiki. Bentornati, bentornati su Radio Plaza, la radio della piazza che trasmette in piazza dal vivo e finisce qui, chiaramente, non la puntata, la radio. Non ma torna in altre piazze, in altri tornerà momenti. In altre piazze, stiamo preparando un 2017 fantastico, tanti appuntamenti, tanti ospiti, soprattutto ospiti internazionali, visto che diciamo, il nostro approccio è internazionalista senza se e senza ma. Lo ripetiamo oggi in questa puntata di Radio Plaza Senza Confini, qui l'11 dicembre 2017, dopo 3 anni dalla presa di Stazione Topia. 11 dicembre 2016 direi io, 3 anni dalla prima grandissima giornata di pulizia di questo posto che ricordo a tutti quelli che sono qui, che chi c'è già stato, chi ancora non c'è mai venuto e chi invece già frequenta questo luogo. Questo 3 anni fa era una discarica, un cesso a cielo aperto, qui abbandonato in questo luogo remoto di questa cittadina di Marigliano, così ridente, eppure si teneva un secchio dell'immondizia enorme proprio al centro della città. Bene, il collettivo Utopia, che già dal nome dice tutto, diciamo come aspirazione, diciamo così, non è che ci fermiamo alle cose così, no, pratiche, materiali, noi andiamo un po' più oltre, andiamo molto oltre, tanto che andiamo all'utopia, appunto, il collettivo Utopia 3 anni fa con mazze e scope e con palette, mazze delle scope, eh? Con mazze delle scope e le palette, viene qui e ripulisce tutto e da 3 anni è pulito, abitato da giovani, anziani, bambini, persone che hanno voglia di trovare un po' di fresco oppure un luogo tranquillo dove farsi gli affari propri, ecco che possiamo oggi festeggiare questi 3 anni in allegria e ora possiamo finirla pure, con sì. La puntata. Allora, la prossima rubrica che abbiamo preparato è quella, appunto, perché la facciamo a Stazione Utopia? Stazione Utopia è uno spazio comune, no? Uno spazio comune, un luogo comune, direi. Non è un luogo comune. Non è un luogo comune. Stazione Utopia non è un luogo comune, quindi sfatiamo un po' di luoghi comuni. È un luogo straordinario, esatto, sì. Sfatiamo un po' di luoghi comuni. Allora, primo luogo comune. Ma parliamo di me. Fuori non si ricorda cosa deve fare. Allora no, io lo so. No, mi ricordo benissimo. È che per cui si crea un po' di suspense, nessuno sa cosa sta per accadere. Ed ecco che in questo momento. Neanche Carmine. Allora, ecco così. Ci colleghiamo con in diretta da, tipo Viterbo. No, e a Viterbo diranno: siamo di fronte a un'invasione. Stai calmo perché nell'Unione Europea, su oltre 500 milioni di residenti di ogni età, solo il 7% è costituito da immigrati e la quota di stranieri varia notevolmente tra i vari paesi europei. Insomma, in tutta l'Unione Europea i permessi di soggiorno per lavori concessi ai cittadini extracomunitari sono diminuiti negli ultimi anni dell'8% e in Italia si registra una netta flessione da circa 512.000 ingressi del 2007 a 248.000 degli ultimi anni. Vabbè, allora non c'è lavoro neanche per gli italiani, non possiamo mica accoglierli! Stai calmo, non ti agitare, vedi che poi succedono cose strane quando ti agiti? Manteniamo la calma, manteniamo la calma. Per sostanzialmente inalterata la popolazione italiana dei 15-64 anni, nel prossimo decennio avremo bisogno di molti più immigrati perché l'Italia sta diventando un paese vecchio. Si tratta quindi di un fabbisogno indispensabile per compensare la riduzione della popolazione italiana in età lavorativa. Nascono meno bambini e quindi serve più forza lavoro per garantire la produttività del paese. Ma quale lavoro? Questi ce lo rubano il lavoro. E vabbè, diciamone ancora un'altra. I costi dell'immigrazione sono bassi e non è vero che ci rubano il lavoro, soprattutto perché la maggior parte degli immigrati va a occupare posti in quei lavori che sono stati abbandonati dagli italiani. Per esempio a raccogliere i pomodori. E lavorare per le pelli. Per le pelli. Vabbè, allora diciamo questo. Gli immigrati in Italia non pagano le tasse. Anche qui lo vedi che ti agiti troppo. Ti non stai ti agitare, che ti agiti troppo. A fare. Sai che dal punto di vista fiscale in Italia, anche in Europa, i lavoratori stranieri pagano più tasse di quanto non ricevano sotto forma di prestazioni? Pagano le tasse! E ricevono poco perché loro sono giovani e fanno meno, si appoggiano meno al sistema del welfare, quindi usano meno risorse. Vabbè, scusa, diamo, allora la dovete smettere in questo paese di bugiardi, perché qui noi diamo 35 euro al giorno a questi qua per non fare nulla. Lo vedi che ti stai troppo agitando, stai calmo. Basta agitarsi, stattano poco ferma. Stai calmo perché se analizziamo il costo annuo medio per ogni rifugiato, il paese che spende di più è l'Olanda, poi c'è il Belgio, la Finlandia e l'Italia sta molto dopo. E pensa che tu parli dei famosi 35 euro al giorno che vengono dati ai migranti. Ma non è così, non finiscono in tasca dei migranti, ma vengono erogati agli enti gestori dei centri e quindi servono per coprire le spese di gestione e di manutenzione ed anche per pagare lo stipendio agli operatori che lavorano nei centri. Operatori italiani che lavorano nei centri. In tasca agli immigrati vanno solo 2,5 euro in media per il pocket money. Quindi, hai capito? Stai calmo. Quindi, diciamo, i 35 euro previsti per ogni immigrato in Italia va nelle tasche degli italiani. Va nelle tasche delle persone che si occupano dell'immigrazione. E che cosa mi posso inventare adesso per smontare questa tua affermazione? Fammi capire. Vuoi per esempio dirci che i costi non li possiamo sostenere? Noi non possiamo sostenere i costi dell'immigrazione! E invece sì, perché i costi che noi sosteniamo vengono da fonti dell'Unione Europea. L'Italia ci partecipa solo in piccola parte. Tenete presente poi, tieni bene a mente, a Napoli si direbbe tieni a mente, anche in Cina si dice tieni a mente. Tieni a mente, sta un po' dappertutto, sì. Allora, si dice, i costi, pensiamo solo che il padiglione Italia all'Expo è costato 92 milioni di euro e quindi l'80%, 80 volte in più rispetto a quello che l'Italia spende per sostenere i costi dell'immigrazione. Padiglione quale? Expo, padiglione Italia. Ah, Expo. Italia. Quindi... basta con questi luoghi comuni. Secondo me sono costi insostenibili quelli che affrontiamo. E l'abbiamo già detto. Ah, già l'abbiamo detto? Lo diciamo di nuovo? Diciamolo un'altra volta. I costi che noi affrontiamo sono coperti dai soldi dell'Unione Europea, alla quale l'Italia contribuisce in minima parte. Vabbè, ti ringrazio, è stato bello discorrere con te. Però stai calmo. Sono calmissimo. E magari un po' di musica per calmare queste ansie. Queste alque. Musica dal Senegal con Alpha Blondy Sankara. Senegal, Radio Plaza. Allora passiamo ai saluti di questa, è finita la prima parte di questa puntata di Radio Plaza, bellissima direi. Sì, salutiamo e ringraziamo tutti voi che avete partecipato, che siete stati con noi qui stamattina. Speriamo di potervi incontrare presto ancora per altre attività, per conoscerci meglio. Grazie mille a Francesco. Ciao. Facciamo un giro di saluti, inoltre vogliamo dire che è finita la puntata, non è finita la giornata, perché noi andiamo avanti, c'è la possibilità anche di mangiare qualcosa qua tutti insieme intorno a questo tavolone bellissimo, quindi chi vuole può intrattenersi ancora nel pomeriggio, dando appuntamento più o meno intorno alle 5 per la seconda parte di Radio Plaza, e poi diciamo sul finire della giornata intorno alle 7 più o meno ci sarà il concerto dei Dora, duo italo-ceco dalle sonorità folk rock, ma salutare. Continuiamo con i saluti, grazie ancora. Grazie, ciao. Io saluto con tutto questo programma, adesso finiamo con te il programma, sono molto felice, io saluto Marco, anche gli altri persone, donne, come anche ragazzi, anche tutte le persone, ho detto ciao. Grazie a te, grazie ancora. Okay, merci per la visitazione, e merci per tutte le persone che sono ici, e merci per notre parole con le palle, tutte le... Grazie per tutti le persone che hanno ascoltato la nostra discussione, e grazie per la manifestazione. Sì, la manifestazione. E merci, io vi ringrazio, Pier. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Grazie mille, ciao. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Grazie a Marghiano, grazie a Radio Plaza. Grazie. Grazie a te. Thank you guys. I'm so glad to be here today. I'm very very happy for your programs, to invite me for your programs, to meet you guys. Thank everybody. May God meet you next year again. Thank you. Ok, grazie. Lui ci ringrazia, ringrazia tutti, è felice di essere stato qui con noi oggi. Thank you. Mi è piaciuto stare con voi, grazie. Grazie anche a te, ci rivediamo più tardi. Certo. Grazie per tutti, mi è piaciuta questa manifestazione, e incoraggio non solo qua, però in tutti i paesi dell'Europa che fanno manifestazioni di questo tipo, così integriamo tutte le culture insieme, tutte le razze insieme, per minimizzare un po' i problemi tra le differenze. Grazie mille, io sono d'accordissimo sull'ultima cosa che hai detto, minimizziamo perché non c'è problema. Grazie mille. Grazie a voi. Mettiamo l'ultimo brano? Allora mettiamo l'ultimo brano e ci rivediamo tra un po' a tavola. A tavola tutti. Grazie ancora e a più tardi. Radio Plaza continua. Radio Plaza! Le rêve, c'est le doué rêve. c'è. 10 minuti. 10 minuti. Dieci minuti e torna Radio Plaza. Radio Plaza. Radio Plaza. Per la seconda parte, eccoci rientrati, eccoci qua, Radio Plaza in diretta live dal vivo qui dalla seconda piazza di Marigliano. Possiamo dire che questa è diventata ufficialmente la seconda piazza? La terza? Perché la non la prima? Qualcuno dice la prima. La prima, la prima! La prima è un po' complicato, i marigliaresi sono gente che si affeziona. E Piazza Municipio hanno un affetto particolare per quella pipparella. Gente e allora di noi facciamo la prima piazza libera. Gente di pippe e pipparelle. Questa è Radio Plaza, la radio irriverente che arriva in piazza dal vivo all'improvviso e va via e nessuno se ne è accorto. Nella seconda parte conosceremo meglio le associazioni che già stamattina hanno partecipato. E quindi Nova Quenè, gli abbassa quando arriva. E il progetto Mare. Ai microfoni, alle voci, alle provocazioni, Carmine e Anna. E alla scelta della musica, sempre Vincenzo. Lui, l'anonimo Vincex Sound. Vincex Sound. Arriva la luce. Allora, vogliamo mettere un brano musicale o partiamo direttamente? Io vorrei un po' di musica. Vai con la musica. Vai con la sicura. Ascoltiamo musica dal Senegal, orchestra Baobab, Werente Serigne. Wow, by the land, the Werente Nan. Sulle note del Senegal salutiamo i ragazzi di Caserta della Murga, grazie mille per essere stati con noi. Alla Murga, hasta la Murga siempre. Your land. Questa terra è la tua terra, questa terra è la mia terra. Dalla California all'isola di New York, dalle foreste di Sequoia alle acque del Golfo del Messico, questa terra è fatta per te e per me. Mentre camminavo su quel nastro d'asfalto, vidi sopra di me il cielo infinito. Vidi sotto di me la Valle Dorata. Questa terra è fatta per te e per me. Ho girato e vagato e inseguito i miei passi attraverso le sabbie scintillanti dei deserti di diamante, e tutto intorno a me una voce risuonava: questa terra è stata creata per te e per me. Il sole usciva splendente e io camminavo nei campi di grano che ondeggiavano e la nube di polvere si alzava. Mentre la nebbia saliva, una voce cantava: questa terra è stata fatta per te e per me. C'era un gran muro alto che provò a fermarmi. C'era scritto su un avviso: proprietà privata, ma sul lato di dietro non diceva nulla. Quel lato era fatto per me e per te. Forse hai lavorato duro quanto puoi, ma hai avuto solo briciole dalla tavola del ricco. E forse stai pensando: ma era vero o era finto che questa terra era fatta per te e per me? Boschi, prati e le rive dei fiumi, per ogni essere vivente, anche i minuscoli microbi, la penna, la pelliccia e la piuma, siamo tutti insieme qui. Questa terra è stata fatta per te e per me. Nessuno potrà mai fermarmi mentre percorro quella grande strada della libertà. Nessuno potrà mai farmi tornare indietro. Questa terra è stata fatta per te e per me. Woody Guthrie. Questa radio è stata fatta per me e per te e per tutti quelli che in questo momento ascoltano e sono collegati con noi spiritualmente e con l'animo. Bene, questa è Radio Plaza, la radio che nasce in piazza si trasforma, si evolve, grida, urla, racconta, legge, scrive, provoca e intervista oggi con noi Francesco Evangelista. In una bella intervista. Francesco Evangelista è il presidente, se non sbaglio. Presidente, ti passo il microfono. C'è un altro, sì. Francesco Evangelista è presidente dell'associazione di promozione sociale Nova Koinè, che opera qui sul territorio marianese. Con varie attività, tra cui una scuola di lingua italiana, anche cultura? Lingua e cultura. Cultura, lingua e cultura italiana. Bene. Mi sa che lui ce lo spiega meglio, quindi Francesco... Ce lo faremo spiegare da Francesco subito dopo un brano, va bene? Pubblicità. No, lo passiamo, stavolta scherziamo scherzando, visto che diciamo Francesco si lamenta del poco tempo a sua disposizione, visto che ha molte cose da dirci. Noi non vediamo l'ora di ascoltarlo. Questa è Radio Plaza e questa è la prima domanda di Anna per Francesco. Sempre io, le quelle difficili. No, facciamo un'altra cosa. I ospiti insieme a noi ci sono anche gli amici. C'è il progetto Mare. Mare, da Massa Lubrense. Mimì che ci racconterà del progetto Mare. Mimì il presidente. Però intanto... Agadir. Chi da Agadà? Cominciamo con Francesco. Francesco, allora, vai. Partiamo. Raccontaci cos'è Nova Koinè, cosa fate e poi dopo magari altre domande, quelle più difficili dopo. Partiamo sì, con dopo, le cose dopo, facili. Dopo. Le cose facili sono quello che siamo. Siamo una piccola associazione in un territorio piccolo che cerca di fare grandi cose con tutte le difficoltà che ne derivano. Come abbiamo anticipato stamattina, noi ci siamo inseriti in un vuoto che era quello dell'insegnamento della lingua e della cultura italiana. Abbiamo captato questa necessità da subito, appena ci siamo costituiti, e la prima difficoltà è stata quella proprio di reperire e di capire l'approccio da avere con queste persone. E così è cominciata questa avventura che ci vede impegnati ormai da 5 anni abbondanti. E niente, poi da lì ovviamente abbiamo capito che insegnando la nostra lingua automaticamente si generano dei processi, partono dei processi di confronto, di scambio e l'integrazione viene da sé. È un progetto molto complicato da gestire perché bisogna confrontarsi con culture molto differenti dalla nostra, a volte ci sono delle incomprensioni e quello che noi lamentiamo è la mancanza di un supporto quantomeno morale da parte di chi dovrebbe favorire l'integrazione proprio per un interesse collettivo. E questo chi? Chi è che dovrebbe chi favorire l'integrazione? Questo, io penso che l'integrazione sia un processo che sicuramente debba coinvolgere tutta la popolazione, però ovviamente non può essere carico di una piccola associazione quello di coinvolgere la cittadinanza al confronto, ma penso che siano le istituzioni a dover farsi carico di questa campagna ad ampio spettro proprio sulla di sensibilizzazione all'accoglienza, al confronto, al dialogo e a... Francesco, voi dove siete? Come vi sostenete? E oltre ai corsi di lingua che cosa fate? Ok, noi siamo qui a Marigliano, siamo in centro storico, abbiamo una piccola sede per la quale paghiamo un modesto affitto, che comunque diciamo a volte è difficile da garantire. E, oltre al corso di italiano cerchiamo all'interno del nostro gruppo di fare una sorta di auto-formazione no? Sulle tematiche, perché anche è importante che siamo prima noi e gli operatori a capire bene di cosa stiamo parlando. Ovviamente questo processo poi coinvolge direttamente anche qualcuno degli alunni, dei ragazzi che frequentano il corso di italiano, e quindi piano piano chi è interessato ad allargare diciamo, la sua presenza, a coinvolgere diciamo, anche i suoi concittadini, diciamo così, si auto inserisce nei nostri processi interni e quindi porta al di fuori quelle che sono le nostre idee che poi automaticamente sono influenzate e contaminate dalle sue. Quanti anni sono che operate sul territorio? Operiamo da 5 anni abbondanti, dal 2011. E l'italiano solo per gli stranieri? Perché se saresti stato scritto male da queste parti, a volte l'italiano anche agli italiani. Sì, certo. Potesse servire, sì. Sì, potesse proprio servire. Io so che tu avevi preparato un po' di informazioni da darci rispetto al territorio e alla situazione. Un po' di musica e poi le informazioni yes. Che hai preparato. Ritorniamo subito e ci ascoltiamo Moby con We Are All Made of Stars. Un po' vecchiotta questo pezzettino, eh? Ma Radio Plaza propone sempre qualcosa di imprevedibile. Growing in numbers. Radio Plaza! Growing in speed. Can't fight the future. Can't fight what I see. my mind. I sing in the reaches. We'll see what we find. People, they come together. People, they fall apart. No one can stop us now, 'cause we are all made of stars. People, they come together. A Radio Plaza, e Francesco aveva quindi da dirci delle cose, che delle informazioni, dei dati che aveva trovato rispetto proprio alla situazione di Marigliano. Sì, di Marigliano e un pochettino dei comuni qui vicini. In pratica, beh, mi è un po' antipatico parlare di numeri, però purtroppo per fare un'analisi del contesto territoriale c'è bisogno anche di questi dati statistici. In pratica, ovviamente, quello che viene fuori è che assolutamente non c'è nessuna invasione, perché se parliamo in percentuali, cioè rispetto magari anche ad altre realtà del nord Italia o dell'Europa, qui siamo veramente al 2%, cioè, di presenza di stranieri nel nostro territorio. Il dato interessante è che, bene o male, la percentuale è omogenea, diciamo, nei comuni limitrofi, a parte qualche piccola differenza per alcune località particolari. La cosa anche interessante è che ci sono state delle trasformazioni, dei passaggi importanti, come per esempio sottolineavo il fatto che 10 anni fa non si registrava presenza alcuna di romeni. Dal 2006 al 2016 invece i cittadini provenienti dalla Romania costituiscono oggi la seconda realtà in termini di presenza qui a Marigliano e anche nelle altre città. E tu, quindi, ti sei fatto anche un'idea di questo movimento, di questo aumento, insomma? Sì, vabbè, gli aumenti, ovviamente tutti i flussi, chiamiamoli così, derivano comunque da situazioni geopolitiche che si generano ovviamente in determinati periodi storici, no? E quindi ovviamente la presenza e quindi l'emigrazione dei romeni in Italia deriva da un periodo storico in Romania in cui fu liberalizzato, diciamo, l'espatrio, furono concessi visti, libera circolazione in Europa, eccetera. E poi ovviamente come dire, la situazione economica in Romania era quello che era, è quello che è, e quindi qua sicuramente hanno più possibilità di lavorare. Quello che noi registriamo come associazione è un'assoluta assenza di romeni che chiedono di imparare l'italiano. Non abbiamo mai ragionato su questo, anche perché abbiamo avuto la possibilità solo da poco di ampliare, diciamo, la nostra visuale facendo degli studi statistici, e quindi cominciamo ora un ragionamento di coinvolgimento, come poter coinvolgere questi romeni che stanno ormai da 5, 6, 7 anni qua, per farli partecipare ai nostri corsi e cercare di interagire con loro al fine di un'integrazione anche con queste persone. E invece gli studenti che frequentano i vostri corsi, avete fatto più o meno un'idea, vi siete fatti un'idea della provenienza geografica? Sì. E dei motivi dell'arrivo? Sicuramente in 6 anni abbiamo potuto registrare ovviamente una alta presenza di quelle che poi sono le persone, le nazionalità prevalenti, no, sul territorio. Quindi vediamo che nonostante per esempio il Marocco rappresenti il 5-6% della presenza di stranieri sul territorio, il Marocco dal Marocco vengono la maggior parte delle persone che frequentano i nostri corsi. Quindi c'è proprio una forte volontà da parte dei marocchini di volersi integrare, di voler partecipare alla vita sociale, alla confrontarsi con le altre culture. Nonostante i marocchini abbiano una forte identità culturale, no? Che a volte si scontra anche molto con alcuni dei nostri principi, tipo quello della donna, quello insomma della abitudini alimentari, eccetera. Ci vorrebbero altre puntate poi per parlare anche di questo. Sì, sicuramente. Marocco e Ucraina sono attualmente le maggiori persone dalla quale provengono i nostri alunni. Però abbiamo avuto tantissime altre persone, cioè da tantissime altre, quindi la Polonia segue subito dopo, Polonia, e ultimamente stiamo registrando anche una forte provenienza anche dal Sud America. Francesco, cos'altro dobbiamo sapere ancora di Nova Conè e anche di te, se vuoi raccontare fatti tuoi? No? Ancora una piccola parentesi volevo fare su questo studio, il fatto che c'è assolutamente una forte crescita di nascite, quindi il Sud Italia rispetto al Nord Italia è un po' indietro, cioè Nord Italia magari stiamo parlando già di seconda, terza generazione, qua stiamo adesso affacciandoci alla seconda generazione. La seconda generazione è in crescita e quindi si pone anche qui il problema nelle scuole. Questi bambini devono essere inseriti. Molte volte questi bambini arrivano in Italia già in età avanzata, 7 anni, 8 anni, quindi vanno inseriti nelle scuole. E qui c'è un forte gap, un forte scontro con quella che poi è la realtà delle nostre scuole, perché non siamo preparati a una mediazione culturale con questi bambini. Quindi vengono inseriti in classi in cui c'è maggioranza di bambini italiani, i docenti non sono preparati e quindi fanno fatica. E c'è una forte richiesta di mediatori culturali e il comune non riesce a rispondere a questa forte richiesta, né pare si interessi a far sì che questa richiesta venga soddisfatta. Cos'altro si può dire di Nova Conè? Un episodio positivo e uno negativo da ricordare del 2017. 2017 ancora non arriva, ci siamo quindi arrivati al 2017 quindi magari potremmo parlare del 2016. Domanda successiva. Allora, voi siete impreparati perché non avete letto il programma. Avete letto il programma, che c'è un 2017 bello grande sul programma? Perché noi guardiamo avanti, noi guardiamo avanti, e noi andiamo avanti, e andiamo avanti. Andiamo avanti. Il 2017 come cosa positiva avrà sicuramente uno spazio maggiore che noi abbiamo dedicato ai ragazzi. Comincia da adesso, ma sicuramente occuperà tutto il 2017. Come cosa negativa non accadrà assolutamente niente. Rapporti con il comune intensi, fruttiferi, ne avete? No, purtroppo immagino che come la maggior parte di chi intende lavorare seriamente sul territorio ha difficoltà a rapportarsi con le istituzioni, perché quando si toccano dei temi veramente utili e che coinvolgono delle minoranze, purtroppo non c'è risposta significativa da parte di chi invece dovrebbe occuparsi più delle minoranze che e invece resto. Da parte dei cittadini com'è la risposta, diciamo così, alla presenza non solo di stranieri, alla quale credo che siano ormai abituati, perché comunque ormai sono tantissimi anni che sì. stanno qui, al di là delle intolleranze, però relativamente, diciamo, alle relazioni che si possono intrattenere con persone di un'altra nazionalità, hai delle informazioni? Sicuramente c'è molta, molta paura, perché non c'è mai stata una volontà di confrontarsi. Nel momento in cui c'è la necessità invece di farlo e c'è la possibilità, c'è il confronto, tutte queste paure, tutti questi muri svaniscono. E quando conosci la persona che è completamente diversa da te, capisci perché e come, non hai più paura di lei, insomma. Il problema è quando tu non sai con chi ti stai confrontando che hai paura. Quando poi lo conosci. Dal tuo punto di vista, la paura nasce dall'ignoranza e quindi, cioè, dal fatto che non si conoscono le persone, o da una disinformazione che viene, diciamo così, propinata anche chirurgicamente creare un'opinione pubblica ostile? Sono entrambe le cose, perché l'ignoranza sicuramente deriva da una cattiva informazione, però poi c'è quella cosina che si chiama volontà, che nel momento in cui arriva alla mente delle persone suscita anche la curiosità di voler capire, di voler conoscere. Infatti abbiamo avuto anche riprova in momenti in cui sono stati fatti dei incontri pubblici di rilievo di una partecipazione intensa da parte del cittadino. Cittadino di locale, diciamo così, sì. Indigeno. Su queste parole un po' di musica, però diamo il benvenuto a Iabasta, che è arrivato Nordin per Iabasta. Buonasera, e parteciperà anche lui dopo al nostro incontro. Insomma, così, musica, giovane esploratore Tobia, Francesco De Gregori. Finalmente Radio Plaza. Giovane esploratore Tobia, 15 anni a settembre, presto poco un bambino, scrive il suo nome nella grotta del bue marino, con la sua strana calligrafia. Giovane esploratore Tobia, giovane esploratore Tobia, nato da un padre d'acciaio e da una madre distratta, alle spalle un'infanzia igienicamente perfetta, morbillo, tristezza e nessun'altra malattia. Giovane esploratore Tobia, esploratore Tobia, parte per la gita scolastica e non sa che fare, gira la testa e vede un vagone bruciare. Dichiarazione di colpevolezza. Perché dovremmo essere accoglienti con chi proviene da territori con forti disagi socio-economici? Perché dovremmo occuparci delle loro vite? Perché dovremmo proteggerli da organizzazioni criminali che sfruttano la loro condizione di difficoltà per coinvolgerli in traffici illegali? Perché dovremmo andare contro il nostro piano? Quel piano studiato nei minimi dettagli? Perché? Ma chi decide le migrazioni e chi i flussi turistici? Chi decide quale paese distruggere e quale addobbare a festa? Il piano appare organizzato abbastanza bene, gli stati e i suoi apparati, gli organi sovranazionali, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, le multinazionali, le organizzazioni criminali sono i centri di potere che decidono delle sorti di tutti gli esseri viventi, decidono quale paese invadere e depredare, dove indirizzare i profughi o chi è alla ricerca di un lavoro, quali sono le tratte da percorrere e magari anche con quale capobestiame. Se sei fortunato, dopo un lungo viaggio arrivi nel magnifico regno democratico pacificista, fondato su principi di libertà ed uguaglianza, senza distinzione di razza, sesso e religione, e su questi territori comincia una nuova avventura. C'è chi passa per i centri di identificazione ed espulsione, chi per i centri per rifugiati, richiedenti asilo, e chi tenta la fuga alla ricerca della libertà e di una vita migliore, e chi altro ancora. E quindi, ricapitolando, i centri di potere decidono di invadere e depredare i paesi del sud del mondo con l'acquisizione di pozzi petroliferi dal potere politico, della manodopera a basso costo e di tutto ciò che appartiene agli abitanti di quel territorio. E poi si chiedono come possiamo sfruttare l'esodo che ne deriva? Ebbene, organizzando l'accoglienza. In questo modo l'apparenza democratica resta e il fenomeno migrazione arricchisce i propri professionisti e i territori cosiddetti civili. Nell'immaginario del migrante diventano zone di reclusione, zone da cui continuare a fuggire. In tali condizioni di povertà, emarginazione e assenza dello Stato, ma a questo punto possiamo affermare, ma perché dovrebbe esserci? Alcuni migranti diventano le prede preferite delle organizzazioni criminali o a caporali senza scrupoli che li assoldano per pochi euro per lavori in campagna, tipo la raccolta dei pomodori, pieni zeppi di sostanze chimiche. E dalle campagne, passando per il trasporto su gomma e quindi a petrolio, non a caso fortemente incentivato, arriva sui banchi della grande distribuzione, dove il consumatore distratto, compulsivo, isterico, omologato, alienato li acquista, li consuma e ingurgita il veleno della multinazionale farmaceutica. Per concludere, il consumatore molto probabilmente si ammalerà grazie ai veleni che si è buttato in corpo, si curerà con le medicine della stessa multinazionale o di un'altra che ha venduto gli antiparassitari ai caporali o ai proprietari terrieri. Fin quando ci sarà qualcuno che acquisterà quei pomodori, il migrante continuerà ad essere sfruttato. Fin quando si continuerà a legittimare lo Stato, il proprio esercito, la produzione e la vendita di armi, ci sarà guerra e le persone non potranno fare altro che abbandonare i propri territori e migrare altrove. Fin quando la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale continueranno con le loro politiche economiche che incentivano la libera circolazione delle merci e non delle persone, favorendo la grande industria globalizzata, contro le piccole produzioni locali ci sarà sempre bisogno di migrare altrove. Radio Plaza! We'll be right back. Eccoci qua, questa è Radio Plaza, oggi 11 dicembre 2016, sono 3 anni dalla presa e la rinascita di Stazione Utopia, ex circumvesuviana di Marigliano, e oggi festeggiamo nella puntata di oggi. Che puntata di oggi, grande puntata, 24 ore di diretta, ragazzi. Il tema è quello senza confini. Stamattina? Stamattina è andata benissimo. Che è successo? Wow, un sacco di cose, bellissimo. Tipo? Tipo c'erano delle persone, un sacco di persone, almeno 30 persone, tutte qua condensate. E che facevano? Niente, se stavano, era un giorno di festa, quindi sono venuti a salutarci soprattutto. Ma io ho visto dei ragazzi seduti al tavolo. Ragazzi? No? Erano degli uomini, diciamo così. Ragazzi... Hai una visione contorta, però vabbè, erano uomini. Ovvio, una visione un po'... C'erano anche donne, allora, mettiamola così, c'erano donne. Anche donne. C'erano ancora, ci sono ancora adesso. Adesso ce ne sono di più. Bene, oggi oltre a festeggiare 3 anni di Stazione Utopia, la puntata della radio è dedicata a migranti, accoglienza, integrazione e libertà soprattutto. E proprio per questo motivo abbiamo invitato... Allora, diciamola bene. Stamattina abbiamo incontrato gli ospiti del centro per i rifugiati di Saviano e di Cisciano, e poi sono stati con noi anche le associazioni che stasera sono di nuovo con noi, Nova Coenè, Iabasta e il Progetto Mare. Abbiamo conosciuto i ragazzi volontari e le volontarie del Progetto Mare, e per questo chiediamo a Mimì che cos'è il Progetto Mare. In 4 parole, M-A-R-E. Problemi tecnici con Mimì, che è un classico, diciamo così. Prova. Dunque, volete un riassunto delle vecchie puntate? Riassunto degli ultimi 10 anni di attività. Niente, dunque, il Progetto Mare è un vecchio sogno nato una decina di anni fa, di scambiare energia con persone provenienti da altri paesi su temi specifici legati alla diciamo cura dell'ambiente, conoscenza dell'ambiente e lavoro per fare in modo che l'ambiente sia più rispettato, sia più lasciato libero di evolversi senza grossi impatti. E finalmente nel 2013 ha iniziato a prendere forma con una prima edizione fatta con 5 volontari provenienti da Lettonia, Germania, Francia e Montenegro. Una esperienza che è andata molto bene, essendo anche la prima, era un vero e proprio esperimento, e visto che ci è piaciuto fare questo progetto l'abbiamo continuato. Abbiamo fatto altre 3 edizioni, ma adesso stiamo finendo la 4ª edizione. E riassumendo, che cos'è? Sicuramente uno scambio culturale, quindi l'obiettivo è lavorare con ragazzi di altri paesi, giovani, con voglia di apprendere e di fare attività per l'ambiente, e lo scambio consiste nell'offrire le conoscenze della cultura italiana, delle tradizioni e anche dell'organizzazione che ci ospita, che è l'area marina protetta di Punta Campanella, ovvero un parco naturale marino, e tutte le pratiche che noi quotidianamente mettiamo in campo di conservazione dell'ambiente, cerchiamo di metterle in campo anche grazie al loro sostegno. Lo scambio consiste nel dare a loro le nostre conoscenze e ricevere in cambio un aiuto, un supporto nel lavoro. Come avviene nella pratica il progetto? Ci sono delle iscrizioni, dei bandi, insomma, raccontaci proprio. Allora, c'è una procedura noiosa di scrivere il progetto, consegnalo nei termini previsti che sono del 2 ottobre. Io intendevo loro, nel senso i volontari, okay. Come fanno ad arrivare fino a Punta Campanella? Glielo chiediamo a loro. Dai. Sì. Come avete conosciuto il progetto e come siete arrivati a Punta Campanella? Questo è dentro del progetto di volontariato europeo, quindi ci sono molte organizzazioni che puoi scegliere in generale sempre dentro d'Europa. In il mio caso io volevo fare qualcosa in relazione con il mare, quindi non aveva tante associazioni che lavoravano in queste in questo tema. Infatti molte organizzazioni sono sociali, che anche è bello, ma io volevo fare un'altra esperienza, quindi ho trovato forse di 2000 che possono avere, solo 6 penso lavoravano nel tema della conservazione marina. Quindi ho parlato con diverse associazioni, tra loro l'associazione di Punta Campanella, con Mimì, e devi mandare il tuo, una carta di motivazione, il tuo curriculum, e se hai fortuna vieni qua. Sei stata fortunata allora. Fortunatissima, sì. Ok, sì, la mia storia è un po' divertente perché non ho cercato niente, mi hanno detto vuoi andare in Italia, ho detto sì, ho pensato con scherzo, mi hanno dato un email e mi ha detto mandi tu CV, una amica, neanche all'associazione, perché era ragazza del coordinatore e lui sta cercando qualcuno, allora mi ha dato un email, mi ha detto mandi su questo email il tuo CV e una lettera di motivazione, e sto pensando che è ancora un scherzo. L'ho mandato e mi ha risposto tra un giorno e mi ha detto che abbiamo interview via Skype. Ho detto, è diventato un po' seria. Come mai proprio a te ha fatto questa proposta, questa tua amica? Ah? Perché allora il coordinatore dell'associazione tunisina è Punta Campanella, era il suo ragazzo, capito? Allora lui... C'è un'associazione a Tunisi... Sì. Che riguarda Punta Campanella, cioè la stessa che collabora, sì, che collabora con Punta Campanella. Il coordinatore era il suo ragazzo. Allora mi ha detto se vuoi provi. Ho detto vabbè. Ho provato e mi ha risposto. Ho fatto l'interview. Questa è la prima volta che vieni qua in Italia? Sì, sì. Cioè la prima è l'unico posto che hai visto in Italia? Qua? No. Ho fatto un bel giro. Hai girato, da quando stai qua poi hai girato e hai visto un po' di posti. Sì, però è la prima volta che vengo in Italia. Sì. Quindi per te l'Italia è Punta Campanella. Per te l'Italia, diciamo nel tuo immaginario, è Punta Campanella, quindi mare, costiera, capri. Sì. Beato te. Sì, è un po'. Che vivi nel sogno. E quindi che cosa fate a Punta Campanella? Allora... diamo informazioni per i turisti che vengano, presentiamo le attività che facciamo, così possono fare visita guidata, kayak con mare outdoors, anche possono fare snorkeling. Spieghiamo le regole del parco, della Baia di Erato specifiche, perché lavoriamo lì, allora spieghiamo tutte le regole lì e diamo più l'informazione. E se no facciamo ogni settimana le scuole, l'educazione ambientale con le scuole per i bimbi delle scuole elementari e basta. Com'è il rapporto con la gente? Perché per esempio Francesco ci parlava, no, che questa sensazione di paura del diverso, dello straniero in genere, così magari per chi le persone di cui abbiamo parlato stamattina, no, che sono un po' più, diciamo ultimamente un po' più individuati, no? come gli immigrati, vai, chiamiamoli così. Voi non siete proprio identificabili come immigrati, o la gente vi identifica come gli stranieri che vogliono, vengono qui a rubare il lavoro, non pagano le tasse, cioè quelle palle che sentiamo. Non tutti, però ci sono qualche che generalizzano tutti stranieri, come straniero è venuto per rubare lavoro o voi documenti per stare qua, però siamo venuti con al mio caso sono arrivato con il mio visto, con un contratto, allora senza problemi, non ho problemi, però ognuno ha la sua opinione e in ogni cosa c'è la prima volta, capito? Allora abbiamo fatto corso di italiano qua e la prima volta che ho comunicato con in italiano e sì, era bruttissima, però vabbè, ho provato seconda, terza volta, così ho imparato a parlare e a comunicare con gli altri. Se non ho fatto così, penso che non parlo mai italiano. Senti, io ho anche una curiosità, com'è la vita in casa dove siete tutti di provenienza diversa, quindi poi c'è Mimì, quindi... No, a parte gli scherzi. Come state in casa? Com'è stare tutti insieme così da provenienze diverse? È abbastanza interessante perché siamo troppo diversi tra noi. Siamo due persone, due del più simili tra noi. Quindi Radek e Elsa, che sono del nord Europa, della Repubblica Ceca e di Lettonia, forse sono più simili tra loro, e Akran e io, lui tunisino e io spagnola, più simili tra noi. Quindi è divertente anche vedere come siamo di diversi, come per esempio per loro forse noi siamo molto rumorosi, per noi loro sono come parlano più basso, se dice. Quindi molte cose sono divertenti perché come non capiamo molto come che fai, e loro con noi lo stesso, ma abbiamo buona relazione, certo. E qui vediamo come la convivenza di culture e di storie differenti poi può essere anche molto divertente, certo. Altro che barricate, certo, certo. Sputi e pietre dietro no, le macchine. Allora, ok, facciamo una piccola pausa e ci sentiamo un altro brano. Un giudice, proprio lui? Proprio quello lì. In quale versione, Vince? Si può sapere? Vince Sound. Allora sentiamo Un giudice di Fabrizio De André qui su Radio Plaza. Ritorniamo dopo con l'associazione Ya Basta. Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. Ma qua finisce, così finisce. Eccoci qua di nuovo in diretta e dal vivo qui da Stazione Utopia, oggi Stazione Utopia senza confini, 3 anni dalla presa e la rinascita di questo posto che era una discarica e oggi invece è una piazza abitata e calda, pulita. E vabbè, ringraziamo tutti quelli che, voglio essere un po' natalizio, ringraziamo tutti quelli che stanno lavorando in questi giorni per tenere Stazione Utopia pulita e finalmente libera da immondizia e degrado. Tutti. Benissimo, allora. E allora, a far sempre il dopo scuola, ma su un'altra veste, se vogliamo così dire. Quindi possiamo dire che Nordin è un esempio perfetto di integrazione, no, di accoglienza, migranza. Di migranza, sì. Vabbè, di anche migranza, accoglienza, integrazione e cittadinanza, possiamo dirlo questo? Allora, è cittadinanza sotto un punto umano, perché comunque mi sento, non sulla carta perché non ne ho il diritto per fare paradossi, però mi sento 101 su 100 un cittadino italiano, marocchino e italiano, perché ne vado anche orgoglioso, per il fatto che comunque io parlo con tutta la gente come parlerebbe un italiano con un altro, ho tutti i diritti e faccio tutti i doveri che mi spettano, cioè, e comunque mi sento un cittadino, cioè, e queste le cose che devono fare le associazioni, che ha fatto l'associazione Yabasta per allora con me, cioè che quel fatto che mi ha accolto non come una persona straniera, perché è giusto, le persone non vanno accolte per identità o per razza, ma vanno accolte semplicemente perché sono delle semplici persone, cioè, e questa è la cosa a cui si deve giungere. E quindi il tema di quest'anno dell'agenda, ci dicevi prima, è la resistenza. E cioè, cos'è la resistenza, Nordin, nel tuo caso magari, se ti va di sì, di vabbè, la resistenza, come dicevamo altre volte, e quel può essere vista sotto varie sfumature, no? Io lo penso sempre come una parola composta, cioè la resistenza, cioè anche nel mio caso, e quel fatto resistere mi ha fatto sì che io esista, cioè mi impongo nel mio mondo, cioè la resistenza per gli Yabasta, per la gente, per tutte le associazioni che hanno scritto, sono quello di abbattere le barriere, cioè di quello di buttare giù tutti quei luoghi comuni che si vengono a creare, da quello dell'immigrazione, come diceva prima il ragazzo, cioè quel fatto di sentirti parte integrante, come quello che fa l'associazione Nuova Queenè, cioè quello di che è una scuola con più di 70 iscritti, con quello che fa gli Yabasta con il doposcuola gratuito, con circa 20 ragazzi, perché abbattere le barriere non è semplicemente verso i migranti, ma anche verso le persone normali, cioè una persona, ad esempio, il fine del doposcuola è quello di andare incontro alle famiglie disagiate, perché comunque è una situazione che c'è e ci dovrebbe essere qualcuno, in questo caso è un'associazione che va incontro alle persone che non si possono permettere oggi come oggi dei soldi, una parte economica per poter mantenere i propri figli. Cioè, questa è per me la resistenza. Quindi, come diceva Francesco prima, loro con la scuola d'italiano hanno individuato, no? Hanno captato un vuoto che c'era nell'organizzazione dei servizi territoriali e si sono infilati in quel vuoto e si sono inventati una scuola d'italiano. Credo che anche l'associazione, forse sì, Yabasta, abbia individuato c'è questo problema lì, sì, nel territorio ciccianese. Infatti anche in questo momento sto solo io, ma perché gli altri miei compagni stanno facendo appunto il corso di italiano per migranti, che è iniziato alle 5 e ancora non finisce. Cioè, penso che la resistenza è andare a individuare, cioè lo voglio vedere su questa sfumatura, andare a vedere dove esiste un problema e andare a piazzarsi lì, cioè magari non riusciamo a farlo per tutto perché esistono altri argomenti tipo la sanità in cui si potrebbe ancora andare a lavorare, persone che non si possono permettere di comprare delle medicine, però piano piano ognuno fa nel piccolo il suo per poi poter lavorare in grande. Nordin, posso fare una domanda personale? Sì, sì, certo. Quali sono i motivi che ti hanno spinto poi a partire dal Marocco ad approdare poi in queste terre? Allora, io diciamo ho 22 anni, però papà, poiché convivo con la mia famiglia originale, papà venne 16 anni fa in Italia, perché come ancora ora si pensa, e lo è, l'Italia è la speranza per tutti i paesi del Nord Africa. Papà cercava di venire qua, di far fortuna, no? Che poi quando viene in Italia vede che la situazione non è vero quello che pensi, però finché quando non provi non puoi sapere. Allora, poiché lui abitava qui, noi stavamo di là, comunque era un fatto molto difficile. Quando si regolarizzò con i documenti, ci portò tutti quanti noi. Cioè, comunque è stata una scelta un po' forzata di venire. Contentissimo, d'altronde, perché comunque mi trovo molto, molto bene. Bene. Quindi tu hai fatto il percorso di cui parlava Francesco prima, arrivato in Italia nella scuola italiana dove non capivi niente di quello che ti veniva incontro, e quindi questo poi, ora che insegni l'italiano ai ragazzi, insomma ti rende ancora di più conto di quanto sia necessario. Sì, assolutamente sì. Cioè, io penso e ribadisco il fatto che ogni persona, cioè io ho avuto la fortuna di trovare delle persone che mi hanno accolto, delle persone che comunque hanno capito le difficoltà che ci sono. Penso che comunque è bene che esistano e ce ne siano sempre di più associazioni, persone, realtà che mantengono sempre, cioè vanno incontro alle altre persone, cioè ma come integrazione, perché io quando sono venuto, è vero, ancora oggi e di più le persone guardano come il migrante con un occhio diverso, ma non per scelta loro, ma perché i media ce lo portano a fare, perché quello che si sente in giornale ce lo portano a fare. Allora è vero che ci devono essere delle persone che vedono i migranti anche come una persona che viene con una determinata difficoltà e riuscire a capirla, insomma, questo è. Perfetto, grazie mille. L'ultima domanda, dove possiamo trovare l'agenda dei beni comuni di Iabasta? Allora, l'agenda dei beni comuni di Iabasta la possiamo trovare in tutte le grandi librerie, tipo da Mondadori, possiamo trovarla a Scisciano, all'associazione Iabasta via Roma, delle altre associazioni che hanno scritto, da Nova Coinè, Libera Basket e così via. Perfetto, grazie mille. Anche io volevo fare l'ultima domanda, se è possibile, vi posso inserire e poi vi lascio tutti liberi. Allora, una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma credo che nessuno mi abbia risposto proprio bene. Volevo sapere perché il nome Iabasta e perché il nome Nova Coinè. Ho chiesto a Mimì perché il nome Mare, ma non mi ha risposto, quindi vabbè, lasciamolo perdere. Perché il nome Iabasta? Allora, è un... Non te lo saprò spiegare proprio benissimo nella formalità, però viene da un nome che è stato ripetuto nel Messico, nel Chiapas, si dice così se non erro, e questo quartiere in cui si erano creati questa specie di quartiere in cui loro gestivano tutto. E il nome deriva da Basta, perciò noi andiamo chiamati Iabasta, però ti ripeto, è una spiegazione un po' superficiale quello che... Vabbè, andremo ad approfondire in modo autonomo che cosa vuol dire. Bene, invece Nova Coinè... Nova Coinè invece è il frutto di mesi e mesi di litigi sulla scelta del nome, non sapevamo, la cosa più difficile che abbiamo fatto è stata scegliere il nome dell'associazione. Nova Coinè è costituita da due parole, una è greca e una è latina, volutamente, ovviamente, perché dopo mesi non poteva che uscire fuori una cosa voluta. Qual è l'una e qual è l'altra? Coinè è greca e nova è latino. La Nova Coinè simboleggia una lingua nuova, una lingua nuova, inesistente, che non è altro che la mescolanza di più linguaggi che si innescano nel momento in cui a un tavolo come questo, per esempio, ci sono persone che non parlano la stessa lingua e quindi automaticamente si trova un metodo comunicativo che non è rappresentato da una lingua esistente ma da una nuova coinè. Bene, è arrivato anche Mimì che forse vuole spiegarci per bene che cosa vuol dire quell'acronimo MARE. Gli passiamo. Scusa. Abbiamo finito. Vai, Mimì. Dunque, Project MARE significa Marine Adventures Respecting the Environment. Da notare l'accento. L'accento faibanese. Faibanese. Il significato è proviamo a fare, a proporci e poi a proporre di fare avventure marine rispettando l'ambiente, quindi senza comportarci da, diciamo, inquinatori come al solito, distruttori. Viviamoci il mare senza distruggerlo, proviamo a farlo prima noi e poi lo proponiamo. Bene, io posso dire oggi che dagli ospiti che abbiamo avuto per tutta la giornata qua, diciamo, ci sono i presupposti per un mondo migliore, questo lo possiamo dire. Noi siamo quelli che gettano le basi per un mondo migliore, lo sapete o non lo sapete? Adesso lo sapete. Alzo la voce perché a volte c'è qualcuno che dorme, è meglio svegliarlo. Così, cioè, uno entra, irrompe nelle case e finalmente apriamo gli occhi, no? Riusciamo ad aprire un po' gli occhi. Nordin vuole dire una cosa, bene. No, vabbè, a parte hai trovato su Google che no, cosa gli hanno. Non è vero. No, volevo dire una cosa che appena hai detto. Ci sta il motto dell'associazione che racchiude un po' quello che hai detto tu, che noi siamo un esercito di sognatori, perciò siamo invincibili. Cioè, perciò sogniamo sempre che arriviamo a quello che vogliamo. Speriamo bene, vabbè. Io ci facciamo un applauso tra di noi, diciamo così. Facciamo... Anche da casa staranno sicuramente applaudendo i milioni di ascoltatori. E continua l'applauso sulle note di Adrian Simionescu, Serbia, Tutti i frutti. Mangiano cosa? penseranno. C'è giunta voce che nel suo paese l'inciviltà regna sovrana. Ambasciatore che in grata mansione la rappresentanza di tale etnia subumana. Vorrei parlarvi di un sogno ricorrente, una donna dal corpo normale, la testa di un cane, le mani di mia madre. Stava seduta sulla panchina di una stazione mai vista, sul tabellone una data di nascita, 21-10-2030. Poiché mi diverte il pregiudizio borghese, perché guastare tale atmosfera gioviale con la tensione, brindiamo all'amore materno, filiale, carnale, brindiamo all'amore promiscuo, fedele e spirituale. Signore e signori, mi spiace interrompervi, siete in arresto, devo rinchiudervi nel ripostiglio, toglietevi le scarpe, mettete sul tavolo oggetti metallici, contenitori di liquidi, se fate i buoni vi lascio una coperta per l'inverno. Allora, eccoci qua con Radio Plaza, così finisce questa, seconda parte e inizia la terza parte, che poi è rappresentata dal concerto del gruppo italo-ceco Dora, acronimo di Domenico e Radek. Domenico alle percussioni, Radek alla chitarra e alla voce. Le sonorità sono quelle folk rock della Repubblica Ceca. Bene. Noi siamo contentissimi di aver fatto questa puntata, di aver avuto l'occasione di conoscere e confrontarci con tutte le persone che sono venute già da stamattina. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato, il Centro Migranti di Accoglienza Migranti di Saviano, quello di Cisciano, l'Associazione Iabasta, l'Associazione Nova Conè, il Progetto Mare, i ragazzi della Murga da Caserta, da Napoli, da Battipaglia, insomma tutti insieme, grazie mille. E poi c'era il banchetto di Iabasta, la cucina clandestina, Libera, Paola, insomma tanta bella gente, grazie mille, grazie ancora e alla prossima con Radio Plaza. E buon divertimento con il mini concerto dei Dora, grazie, questa è Radio Plaza. M'am jurat că noi mai bea bai, la-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Cât o fișă fi lumea bai, la-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da